Questo è lo stream sperimentale di Runtime Radio. Ci trovi su www.runtimeradio.it. Un piccolo seme può dare molto frutto se mani amorevoli se ne prendono cura. Ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom, una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.runtimeradio.it e accedi da lì alla Vargheomacchia, la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Vargheomacchia sul sito www.runtimeradio.it. Grazie. Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati, 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. E ciao carissimi amici di Runtime Radio e di Ludico Forum, vi siamo mancati? Voi non ci siete mancati, ma soprattutto non ci siamo mancati noi stessi. Bentornati, mentre che mi sto strozzando perché ero del tutto impreparato, pur sapendo quando finiva la sigla stavo facendo un'altra cosa. E Marco Gualdi, vi siete mancati? Voi vi siete mancati lì in casa davanti al, non so, il vostro dispositivo preferito, aspettando voi stessi e ascoltate il podcast? Siete un po' piccati. Vi siete mancati? Noi non vi siete mancati, che è quella la cosa più importante. Ma tu, Gualdi, ti sei mancato? Io mi sono un po' mancato, perché ho provato a buttarmi un peso sul piede, ma non ci sono riuscito, quindi... Ti sei mancato, esatto, ok. E tu ti sei mancato, caro Carmine Puccio Console? Io mi manco sempre. Provo a colpirmi, ma non ci riesco. Vabbè, se fai la stessa battuta dei Gualdi... Siamo più divertente, non c'ha senso. Ci raggiungerà fra poco anche un terzo sodale che si accompagnerà con noi in questa bellissima serata e si accomoderà su questo meraviglioso tavolo che è il tavolo del videoludo, è il tavolo dove si gioca, dove si appiccano dei coltelli cercando di lisciarsi le mani e tutte altre bellissime cose che mi sto inventando sul momento, perché chiaramente cazzo è una bisca a Marsiglia, esatto, con del rum da una parte, esatto. E tante scuregge, persone in canotta sudate con le macchie sui pantaloni, lusso. Esatto, bravo, ma che di lusso. Va bene. Abbiamo assolutamente una sala blackjack con squilli di lusso, ma senza il blackjack. Esatto, e senza il lusso, quella è la cosa più importante, perché il lusso già ci contraddistinguerebbe come so. Abbiamo capito che prima ti stavi strozzando perché stavi facendo un'altra cosa, cioè avere un ictus. Esatto. No. Sta continuando però, vero? Esatto, no, stavo pensando, no, perché io sto nel mentre sto manovrando e poi mi è venuto così improvvisamente, proprio perché stava per iniziare la puntata, un raschietto alla gola che non so più come risolvere, tra l'altro. Insomma, quindi... se ti giri dietro da te, se dovrebbe essere una bottiglia di qualcosa di molto alcolico. No, quella è andata via, è finita già da tempo fa. Facevamo ancora Ludico Forum. Quando lo so, però quindi mi è mancato Ludico Forum. Oh, bellissimo. No, ora vi spiego. Mi stavo distraendo perché stavo vedendo se finalmente siamo riusciti a far scrivere al sistema di streaming nel player il fatto che siamo in Ludico Forum live. Ci siamo riusciti, bravi noi, bravi tutti. E un giorno riusciremo anche a metterci una grafica. Tiè, vaffanculo. Comunque, allora ragazzi, questa mi hanno scritto in diverse persone dicendo: ma non lo fai più Ludico Forum? No, non sappiamo di che cazzo parlare, soprattutto. Ma poi in realtà ci siamo anche resi conto che volevamo fare tutti i temi impegnati, ma non ci davamo il tempo per prepararli, e quindi venivano fuori delle puntate di merda, insomma, fondamentalmente. Allora, e quindi la svolta intelligente è fare direttamente le puntate di merda, senza darsi dei temi, che quella è la cosa più importante. Quindi abbiamo detto: prendiamo delle notizie a caso, commentiamole, parliamo un po' di videogiochi, perché poi alla fine, secondo me, chi ascolta il podcast, non il nostro ma in generale, chi ascolta i podcast dei videogiochi vuole sentire parlare dei videogiochi, cioè tutte queste lucubrazioni che famo noi, volevamo fare i diversi, volevamo fare i più fighi, non ne frega un cazzo a nessuno. Ma noi ce ne siamo resi conto, abbiamo preso atto di questa cosa, e da adesso in poi cercheremo, insomma, di avere sì delle puntate con dei temi, ma non sempre. Chi ci sta seguendo, ragazzi, su www.rantemeradio.it, che è l'unico modo per seguirci live adesso, anche se vi state chiedendo come potete interagire con noi, andate su Telegram, scrivete dirette Runtime Radio, e lì entrate nel nostro magnifico gruppo e scrivete qualche cosa nelle chat, e noi, insomma, quello che voi scrivete lo leggiamo forse, e poi vi rispondiamo altrettanto forse. Ma allora, tante notizie. Io ho visto, per esempio, Puccio, quel gioco molto figo della tizia che atterra nel pianeta, che poi si riavvolge tutto il tempo. The Returnal. Che è il primo gioco ufficialmente per PS5. Dopo solo tipo 6 mesi dal lancio hanno tirato fuori un gioco tipo esclusivo per PS5. Quindi partiamo con la polemica, fondamentalmente. No, non è la polemica, partito con la polemica. No, è una discussione, è una civile discussione che sto a fare una volta a settimana con gli amici che mi mandano le notifiche tipo: vedi, è tornata disponibile la PS5 su MediaWorld, su Amazon, all'1 euro, al despar. Io tutte le volte dico: sì ragazzi, io sono molto felice, però a che cazzo devo giocare se me la compro? Perché no, detto tra noi, cioè, voglio comprare The Returnal. Adesso puoi comprare The Returnal, però potevi anche giocare a Spider-Man col Ray Tracing. Ho giocato sulla PS4 Pro. No, sicuro Ray Tracing no, però, cioè, capito? Adesso mi frega del Ray Tracing. A 24 frame al secondo. Ah, ti interessa Spider-Man? Tu sei un amore, sei un amante di Spider-Man. Vabbè, andiamo con ordine. Miles Morales in particolare mi piace. Ti sta simpatico, perché da questa questa svolta un po' capito che in realtà addirittura è più complicato, perché il padre è di colore e la madre è sudamericana. Quindi c'è più ruolo. È uguale, cioè, le tare razziali. Esatto, cioè, Trump sta a sbattere la capoccia sulle pareti. Sì, sì, ma infatti, se nasceva nano era. Beh. Io immagino i repubblicani quando è uscito la prima volta nell'universo Ultimate della Marvel, però le cragnate. Se vogliamo parlare di questo, allora, cioè, nel senso, Falcon lì è il soldato d'inverno. Che alla fine lui diventa Capitan America e poi fa pure. I fumetti lo sapevo che più o meno andavamo a parlare là. No, ma io l'avevo capito da subito però ti devo dire la verità. La cosa bella di tutto questo è che lui gli fa pure il pistolotto morale. Io lo so che molti di voi mi state odiando, cioè, è questa svolta antirazzista. Mi faccio un po' schifo. Esatto, questa svolta politica di Disney è interessante, insomma. No, in realtà la cosa divertente è che in realtà quel pistolotto manco se lo sono inventato, cioè molto simile, diviso in più episodi nei fumetti in cui Sam aveva lo scudo di Capitan America dopo la saga del Chiodo di Ferro, che è quella in cui, diciamo, ci invecchia Steve Rogers nei fumetti e quindi passa, sia pure temporaneamente, lo scudo a... Perché va bene neri, ma fino a un certo punto, insomma. No, vabbè, però vi assicuro c'è molto di peggio. L'altro giorno stavo parlando di sta roba ed è ricicciata fuori un'intervista a Lenny Kravitz che diceva... Quando si parla di razzismo io penso di poter avere qualcosa da dire, perché sono contemporaneamente nero ed ebreo, e andavo in un liceo andavo in un liceo cattolico, e se fossi stato anche omosessuale avrei fatto tombola. C'era lui che... però è un po' nano Lenny Kravitz, quindi volendo aggiungere secondo me dentro di lui è anche un po' comunista, ma probabile. Comunque, torniamo un attimo, riprendiamo un attimo la bomba tutta la questione, quindi la deriva insomma del Capitano America, che finalmente è un Capitano America che non è più Gesù Cristo ma è un niggaz, insomma, con tutta la cosa. Però ritorniamo invece al discorso di origine. Pare che allora, questo del Returnal, insomma, allora io l'ho potuto apprezzare soltanto in video su YouTube. Beh, certo, non c'hai la PlayStation 5. È il tentativo di Housemarque di non sparire nell'oblio. Housemarque è famosa perché, insomma, fa giochi un po' di nicchia, che generalmente sono sparatutto, dalla grafica, insomma, non eccessivamente ricercata. In genere twin stick shooter tipo, che ne so, Enter the Gungeon. Sono stati anche il primo titolo, insomma, di un certo peso su PS4, il primo titolo che è stato poi inserito all'interno del pass di Sony. Si sono menati direttamente su PS5 su un prodotto AAA, e devo dire con dei risultati interessanti. Allora, innanzitutto non è un gioco facile per niente. Quello lo si è capito. Pseudo Souls like, insomma. No, più che allora è diciamo che è un Dark Souls fantascientifico. Allora, sì, diamogli questa botta così, insomma. Però c'ha anche il fatto che i livelli non sono mai del tutto uguali. Tra una parte di generazione procedurale dei... c'è anche un po' roguelike, è un po' roguelike, è un souls-like. Allora, in realtà dovremmo, essendo noi persone precise, dovremmo dire roguelite, perché in realtà tu roba che te sei sottato te la tieni nella run successiva, non tutta, però da quello che ho visto una parte sì. Non è un gioco facile per niente, anzi sembra abbastanza impegnativo, e come direbbe un mio amico, se non ci riuscite è colpa vostra, nel senso, sì, è difficile, però ti devi studiare attentamente i livelli, ti devi studiare attentamente i passaggi, pian piano è il senso di progressione. Quindi gioco tutto sommato, diciamo, però anche impressionante da quello che ho visto, però sì, è un gioco sì, che sì. Ho 43 anni con due figli, non posso fare, perché non posso bestemmiare in casa, quindi o sto attentamente imbavagliato e le bestemmie me le tengo dentro, dico, oppure non mi diverto a giocare, oppure semplicemente rendi sordi i tuoi figli, assolutamente, oppure gli metto la Nutella nelle orecchie. Questo è un problema che io ho avuto. No, poi se la leccano a vicenda, no. Può essere. No, e quello è troppo basso, Pietro, non ci arriva ancora alle orecchie della sorella. Questo è, tra l'altro, è il motivo per cui io non sono mai riuscito a finire Sekiro, perché al di là che è difficile come la merda, però uno impegnato, la merda non è difficile, dai. Però non sì, ti rilassi sì, proprio Sekiro, sai quando hai passato una brutta giornata sul lavoro, sei stanco, ti vuoi rilassare, proprio Sekiro sta tra te e buttarti direttamente dal balcone. No, seriamente, Sekiro è troppo punitivo dal mio punto di vista. Però vabbè, insomma, è un capolavoro di gameplay, però diciamo è bello ma non ci vivrei. Vabbè, tornando a Returnal, posso dire una cosa? Prego. La cosa carina, che da quello che ho capito, poi mi piacerebbe, insomma, anche sentire qualcuno che magari l'ha giocato nelle prossime settimane, così magari ci ritorniamo, è che questa cosa della difficoltà e della morte è comunque contestualizzata nella narrazione, cioè comunque il gioco lo prevede proprio che sia così, tant'è che sì, quando diciamo che la meccanica è basata sui loop temporali, esatto, tant'è che lei quando incontra anche, cioè, il cadavere di se stessa, comunque tutte le sue tracce, e comincia ad avere memoria del fatto che comunque, o comunque comprende che lei è passata più volte in quel posto, quando comincia a ricordarsi si ricorda anche che i posti sono uguali ma sono diversi rispetto alla volta in cui c'era passata precedentemente. Esattamente. E questa è forse la cosa più no, tra l'altro doppiato in italiano, guardando i video di gameplay mi è venuto in mente un episodio dell'ultima stagione di Dottor Wu con Capaldi. Dai, questo Dottor Wu si chiama Dottor Wu, no Dottor Wu. Avete ragione, ragazzi, sono pugliese, perdonate, ho questa inflessione orrenda. Allora, stavo dicendo, ricordo un po' quella la puntata con Capaldi che muore e risorge contemporaneamente dai cazzotti alla parete di diamante, pian piano la ah parte. Sì. Cioè, vedendo i video di gameplay ho pensato esattamente a quell'episodio, non so perché me lo ricordo. Comunque la dinamica del loop temporale è veramente figa, da quel poco che sono riuscito a dedurre dai soli video di gameplay, ma non è abbastanza figa da dirmi domani mi compro la PS5, anche perché trovarla, insomma, non è esattamente. Beh, no, però pare che adesso insomma sia più facile, diciamo, tra virgolette, non solo più facile, ma oggi è venuta, proprio oggi è arrivata questa notizia fantastica che Sony sta già pensando a un restyle della PS5. Sì. Allora, c'ho dei problemi, no, di situazione di calore. Vorrei chiedere una cosa a Pizzi, però, perché è una cosa importante. Chiedimi, questa, io so tutto. Questa facilità, secondo te, di trovare la PlayStation in una scala che va tra sconti di poltrone e sofà e scheda video di ultima generazione, a che livello sta, più o meno? No, secondo me è a tre quarti verso schede grafiche, perché ok, perfetto, perché adesso è tutto chiaro, adesso, perché in realtà è diciamo è gira, nel senso, per esempio un coso Morris ce l'ha, se l'è presa, l'ha comprata, perché l'ha trovata addirittura proprio al supermercato, quindi c'è, nel senso, comunque la PS5 o la scheda mia PS5? No, la PS5, sì, la PS5. Inizia a girare, cioè, tipo lui è andato, certo, all'S lunga e l'ha trovata, no, no, diciamo, no, che una sua collega, una persona che aveva la PS5 se l'ha portata a casa, no, una sua collega lo ha avvisato, ha detto guarda che ci sono le PlayStation 5, se te la tengo una, insomma, nel senso, ah, cioè gli ha fatto la telefonata in codice, esatto, gli ha fatto il nido, l'aquila non è più nel nido, quindi l'uccello può decollare, esatto, lui felice non è più felice, no, visto che stiamo parlando di questa tematica, io sono iscritto a un po' di gruppi in giro a cui partecipo pochissimo, però mi piace tanto leggere i post degli utenti. In uno di questi diverse persone stanno raccontando che sì, sono riusciti a comprarsi la PS5 da Amazon, ma, ed è capitato a parecchie persone a quanto pare, stranamente i corrieri gli hanno consegnato un pacco diverso e sono stati poi costretti a rivolgersi al servizio di assistenza ad Amazon dicendo: guardate, il giorno della consegna della PS5 il corriere mi ha lasciato una scatola da 300 cialde di caffè decaffeinato o roba simile. Un caso mi ha fatto particolarmente ridere, di un ragazzo che ha detto: io non so cosa è successo di preciso, so solo che sono sceso per prendere il pacco, ho visto il corriere rientrare nel camioncino e uscire con un pacco dicendo: guarda, forse hanno fatto casino, chiama l'assistenza clienti. E io non ho avuto la prontezza mentale, scrive il ragazzo, di dire: scusa, come fai a sapere che hanno fatto un casino? Da che lo deduci? E lui si è trovato con questo pacco che era altra roba in mano, ha chiamato l'assistenza l'assistenza di Amazon e ha cercato di chiarire la questione. Quindi pare ci sia, tu vuoi colare me? Esatto, in pratica pare che sia successa questa cosa abbastanza discutibile di corrieri che si inculano le PS5 ordinate dagli utenti. Ma come mai questa cosa non mi stupisce? Ma a parte questo, a me poi francamente quando ho letto questa storia mi è tornata nel cervello un evento capitato a me, che avevo cercato di rimuovere, o cui non stavo dando peso, ma che leggendo quella roba mi si è accesa la lampadina. Quando io ho comprato la mia 2070, che ancora non posso sostituire perché la serie 30 non si trova, l'ho ordinata da Amazon, disponibile, bellissimo, consegna il giorno successivo, io felicissimo, ed ero lì che aspettavo. Siccome quei giorni ero fuori, chiesi la consegna, mi inserì come indirizzo di consegna a casa dei miei genitori. A un certo punto vedo la notifica di Amazon: il pacco è stato consegnato. Chiamo mia madre, dico: scusa mamma, è arrivato tutto bene? Ma guarda che non hanno consegnato un cazzo. Chiamo il corriere, che all'epoca era Poste Italiane, e spiego dicendo: guardate, io ho avuto la notifica di consegna ma non è stato consegnato nulla. No, sarà stato un falso positivo, probabilmente il collega ha fatto tardi, ha riportato. Le rifacciamo subito il tampone, insomma. Sì, una roba del genere, è stato prima, da due anni prima del COVID. Insomma, mentre ero lì che la cosa non mi tornava, e visto che il giorno dopo il pacco non era stato rimesso in consegna, ho cominciato a bombardare l'ufficio postale del mio paese, all'epoca non ero ancora tornato a vivere qua, fino a quando non sono riuscito a farmi passare un addetto alle consegne che continuava a dire: no, guardi, risulta consegnato. Io ho alzato la voce e gli ho detto: guardi, mi presenterò di persona e verrò a controllare. Magicamente il pacco due ore dopo viene consegnato realmente dal postino. Peccato che era completamente aperto l'involucro di Amazon, ed era anche aperta la scatola che conteneva la 2070. Si chiamano Fida la Mignotta in Francia. Se volete, c'ho ancora le foto di quel pacco, perché poi le mandai ad Amazon. Non so esattamente che provvedimenti può aver preso. Beh, in realtà avresti potuto chiedere anche il rimborso, sai? Sì, probabilmente. Vabbè, dai, me l'è arrivata, funzionava, era intera. No. Anche perché col rimborso, adesso avrebbe il rimborso. giocherebbe con un rimborso infilato. No, non è proprio così, sai. Esatto. Poi magari una volta ne parliamo più dettagliatamente, perché non è la puntata dove parliamo di Amazon. Però no, vabbè, parliamo di schede grafiche sostituite dai rimborso, cioè non ci girano i giochi sui rimborsi. Sì, cioè vabbè, se metti un buono Amazon lo so, non va bene Express, non penso che non va. Vabbè, comunque ragazzi, tornando un attimo ai videogiochi, c'è anche stato lo State of Play di Sony, in cui hanno fatto vedere Ratchet & Clank e basta. Ma proprio e basta. E si cazzi! Cazzo, insomma, infatti, no, però devo dire, cioè, graficamente ragazzi, graficamente è bellissimo, devo dire. Mi sta sul cazzo Ratchet, ma che non avete l'idea. Però cioè, graficamente è Clank ed è sta simpatico. C'è il fotorealismo. Clank di più, robo. No, cioè il fatto che passi da un universo, da una realtà all'altra, graficamente è reso benissimo. Vedi proprio la realtà che si strappa, e lui che passa da quello che in realtà è un livello all'altro. Cioè è proprio molto molto bello da vedere, ti dà veramente la sensazione di un gioco di nuova generazione. Poi ovviamente se vi stanno sulle balle i due protagonisti del gioco, insomma, diventa un po' un problema. Però devo dire, a vederlo sembra molto molto molto promettente. Ma chi è che c'ha le notifiche di Skype a palla? A palla proprio. Potrei essere io. Ma non a palla ce l'hai. A palla. Umberto, buonasera. Buonasera, ciao Umberto, ciao. Stavamo parlando. Umberto. Ti sentiamo strappato, però, come prima. Strappato? No, ecco, adesso ti sento bene, ok. Ti sei mancato, Umberto? Ti sei mancato? Ah, vabbè, raga, pazienza. No, la domanda è: ti sei mancato? Tu? Io mi manco, sì, sempre. No, quello è importante. Anche lui si è mancato, bravo. Sei come noi. Va bene, comunque ragazzi, So The Returnal alla fine, per quanto sia, devo dire, non è il mio genere di giochi, voi sapete, non sono un simpatizzante, però insomma ho letto, mi sono informato, anche perché ero anche abbastanza curioso di vedere questa prima vera produzione PlayStation 5, e tra l'altro insomma anche dal punto di vista dell'investimento, tutto il gioco completamente doppiato in italiano, e queste meccaniche di gioco che sono propedeutiche, insomma la narrazione che sono veramente interessanti, però ecco, il problema è questo, insomma, che noi a mesi di distanza dalla PlayStation 5 conosciamo veramente poche persone che oggi possono venirne a parlare in trasmissione, perché non c'hanno la PlayStation o non c'hanno il gioco, ma prevalentemente non c'hanno la PlayStation, insomma, quindi questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda prossime uscite, vabbè, poi vediamo, perché io vedo ancora un sacco di annunci, un sacco di cose, ma insomma in buona sostanza è una generazione un po' arretrata. E mentre invece Nintendo, visto che ha dichiarato di aver venduto mezzo miliardo di console mobili, ragazzi, Gesù, in totale sì, ha fatto 25 milioni di Switch, però se sommi, vabbè, vinci facile se sommi i vari Game Boy e famiglia, però in realtà la notizia erano i 25 milioni di Switch, ma la notizia nella notizia è che da quest'anno si aspettano di venderne di meno. E anche ora, insomma. Sì, no, vabbè, dopo 4 anni, insomma. Il Sunset dipende da quanto durano, insomma, no, vabbè, in realtà pare che l'idea sia tirare fuori una Switch potenziata, completamente retrocompatibile col parco giochi della Switch attuale, un po' come fu fatto alla fine del periodo Nintendo 3DS, che tirarono fuori la versione Plus, dove ci furono ben 2 giochi esclusivi, se ricordo bene, forse 3. E quindi mantenere tutto il parco giochi retrocompatibile, però cicciarne una con lo schermo a 720 in modalità portatile, dicono 4K in modalità docked, non ci credo manco se la vedo, è retrocompatibile con tutti i vari Joy-Con che sono usciti nel corso degli anni. Boh, speriamo. Bene, invece volevo una vostra opinione in generale sul fatto che, arrivando l'estate, quindi sono oramai iniziano le belle stagioni, ha aperto il Resident Evil Village, non so se lo conoscete, insomma è un villaggio turistico e dove tu vai lì è un po' grigio, insomma, un po' particolare, c'è tutta questa atmosfera un po' cupa, poi ci sono persone pelose, insomma, è una cosa un po' strana, però insomma voi prenotereste un bel viaggio al Resident Evil Village, Umberto, ti potrebbe interessare? No, no, direi di no. Ma non ti interessa proprio la saga o non ti interessano queste ultime iterazioni? La saga mediamente mi piacicchia, però non mi andrei a fare una vacanza in un posto a tema, diciamo, anche perché non credo debba essere piacevole, quindi non lo so. No, infatti, anche perché non esiste, però stavo facendo il cretino, però insomma, la cosa che invece mi interessa da sapere è vostra opinione, quindi ovviamente... Come vedi io delle news non sono... Non sei informato, no, vabbè, perché è uscito, no, giusto? Sì. È uscito Resident Evil Village. Sta prendendo dei voti della Madonna. Che ovunque, io sto vedendo delle recensioni da... Come posso dire, non le vedevo da tantissimo tempo, dove sì, beh, diciamo che il feedback delle armi non è proprio un granché, sì, beh, insomma, le meccaniche tradizionali da survival, insomma, non è che ci stanno, sì, però insomma, però è un gioco però, meraviglioso, 99,99, cose impressionanti. E io però, al di là del fattore strettamente tecnico, che indiscutibilmente, insomma, da quello che possiamo vedere, questa cosa della malvagia, della tizia, la gigantona, la gigantesca Dimitrescu, Lady Dimitrescu, cattiva, che... però incredibilmente buona. Cioè, anche io non la considero particolarmente vabbè buona. Lascia stare, oh. No, cioè, a te certo. Piace, cioè, chi non vorrebbe andare con una donna alta 3,5 metri? No, e soprattutto con le mani che diventano, come, insomma, artigli, insomma. No, è tipo la puntata di Futurama, quella con le amazzoni, no? Morte per snu. Ma però le amazzoni erano normali, non avevano artigli, erano solo grosse, ci poteva anche... E morivi di snu, non di artigli. E morivi di snu. Morivi contento, sì. Morivi felice. No, perché l'altro giorno Puccio in chat ha scritto, perché sapete che la tizia lì, come si chiama, Lady Dimitrescu, è diventato il nuovo sogno erotico dei gamer. No, ma non solo quello, che io veramente, vabbè, insomma, mediamente i videogiocatori c'hanno dei gusti sessuali, beh, sì, insomma. Ma a parte quello, se chi, vabbè, io in realtà non tantissimo, però ho amici che stanno nel giro cosplay, e loro hanno cominciato a parlare di Lady Dimitrescu come della nuova Harley Quinn. Quando uscì il Suicide Squad, la look successiva c'era tipo caterve di Harley Quinn. Ma quanto non mi stupisce questa cosa. Esattamente, Lady Dimitrescu per i cosplayer sta diventando lo stesso fenomeno, nel senso che se vai a vedere i canali dedicati all'argomento, ci sono tutte queste ragazze che si sono conciate come la mega vampira o qualche di Resident Evil Village, ma decine e decine e decine, e ogni giorno ne escono di nuove. Oh, ma vi dispiace se me ne vado? Sì. No, perché stiamo parlando di argomento. Sì, se ne parla di cosplay, mi dispiace se me ne vado. No, vabbè, era solo un accenno, oh, chiaramente. No, vabbè, che tristezza. Ma che in realtà poi l'altro giorno si vede a Luca da ammazzi, cioè è stato solo quello. No, ma infatti io a Luca ci sono andato una volta sola in vita mia, e non penso di ritornarci proprio. No, anche se devo dire, prima del Covid, tipo, erano riusciti più che altro a confinarli in un'area apposita. Adesso bisogna alzare dei muri, per quel che mi riguarda. Comunque, no, vabbè, per carità, non fanno male a nessuno. Beh, no, se ti becchi una spada di plastica in un occhio, a Luca, da sicuro. No, il problema di Luca, allora, io ricordo sempre una scena meravigliosa, che praticamente, vabbè, c'era la questione dei pass, dove devi comprare i pass giornalieri, puoi entrare in certe zone, puoi entrare in certe altre zone. Mi ricordo che io stavo con Matteo, che era piccolo, cioè aveva 9 anni, e stavamo praticamente stracalcati con sto flusso di gente, che veramente è una cosa impressionante, per entrare nella sezione gaming, no? Poi ha iniziato a piove, e poi a un certo punto, quando arrivò là, quello dice il pass, face no, guarda, ma questo non è il pass giusto, non puoi, devi per forza tornare indietro. Io guardo verso l'esterno e vedo i zombie, però c'è una cosa, gli ho detto, guarda, tu adesso ti puoi inventare quello che cazzo ti pare, puoi chiamare la polizia, strillà, fai quello che ti pare, io entro qua dentro, perché se mai esco dall'altra parte, di certo non riesco, e rifaccio il senso inverso con tutto sto marmagna e il ragazzino piccolo. no no vabbè c'è ragione, entra, fine sono entrato così a cazzo di cane, tra l'altro non pagando quel pass specifico, però insomma vedi, non, secondo me non, quando, ma io te parlo quando, non mi ricordo neanche, sarà stato parecchio tempo molti anni fa, esatto, sono omnicomprensivi un po', ma in generale comunque secondo me, io capisco Lucca, no, tra l'altro Lucca in un contesto dove c'è, cioè, nel senso tutto quello che è il contorno, che comunque guadagna soldi da sta storia, ti trattano pure di merda, credo, perché tu gli dai fastidio. Questa è un tipico atteggiamento che io ho trovato in... che sei in Toscana, gli spieghi tu i lucchesi, o cioè, no, vabbè, cioè abbiamo degli esperti, è così in tutta la Toscana, no, ma io questo lo so che è così in tutta la Toscana. Il problema è che però poi questa cosa si accentua molto al di là della Toscana. Gli porti i soldi, però gli rompi anche il cazzo. Esatto, sì, io vorrei rompere il cazzo, cioè gli porti i soldi, però, gli rompi, però se no gli porti i soldi, gli rompi il cazzo, quindi questi stanno sempre rotti il cazzo, capito? Comunque sì, esatto, però in generale questa cosa l'ho ritrovata in tantissime realtà di provincia, tipo alla stessa cosa, cioè, lo stesso atteggiamento ce l'ho avuto a Perugia quando andai io al Festival del Giornalismo, dove nonostante tutto il lambaradam, il movimento, roba del genere, quando io sono andato col microfono a intervistare la gente, cioè, per sapere che cosa ne pensavano, per loro erano tutti coglioni, cioè non c'è cazzo da fare, cioè, quando il cervello è così che comunque vabbè, non era di questo che volevamo parlare, cosplay non ce ne frega niente, però ho visto la fotografia di una cosplayer italiana che faceva Ellie che suonava la chitarra e ha ricevuto pure i complimenti di Naughty Dog. Io non ho capito se era uno scherzo o se era vera sta cosa, perché poi era una tizia vestita con i top e con la chitarra a mano, fondamentalmente, cioè non è che ci vuole, non è che ci vuole sto scienza a fare il cosplay di Ellie, piuttosto di Ellie. Poi chiudiamo un po' sta questione, poi se ognuno magari se c'ha una notizia a sé, insomma, che magari se l'è portata indipendentemente dal proprio inerentemente magari i propri interessi, c'è il fatto che è stato ufficializzato che il remake di The Last of Us esatto, non sarà semplicemente un remake, cioè questa cosa che, vabbè, che significa, ma... questa, che significa? Ci saranno i finali multipli? No, ma esattamente, non ho capito. Seriamente, non ho capito che cosa volevano dire con non sarà solo un remake. Cioè, aggiungono roba, bene, siamo contenti, dove? Ma vabbè, forse cambiano un po' tutto, come hanno fatto, che ne so, con il remake di Ratchet & Clank all'epoca. Infatti sì, che rimane la stessa cosa, però viene portato avanti anche il gameplay. No, è semplice, mettono la faccia di Pedro Pascal e di quell'altra. Oddio, non ci voglio pensare a sta cosa, però vabbè. Un personaggio in più, qualche side quest. Ma secondo me è l'aggiornamento anche delle meccaniche del gioco, che poi è un po' più o meno quello che mi aspetto anche dalla leggendari Ultimate Final Destination Edition Guts Imperium di Mass Effect, fondamentalmente. Cioè, ah, ma quando esce? Quello io la sto tenendo d'occhio. Addirittura d'arrivo. Tra l'altro non hanno fatto vedere un cazzo fino adesso, cioè nel senso, diciamoci anche però, me li rigiocherei volentieri. Io assolutamente, ma se devi vedere i pizzi, cioè le stesse cose dell'altra volta, solo scusa, Simone, se c'è il Game Pass, ma aspetta, vedi che comunque c'hai voglia di rigiocarteli. Vedi che le versioni PC stanno nella sezione EA del Game Pass. Ma io i tre Mass Effect me li so già rigiocati due o tre volte, perché praticamente l'ho giocati prima su Xbox, poi quando sono usciti per PlayStation, che erano già stati a sua volta migliorati. Però in realtà oggi, se io dovessi riprendere in mano un Mass Effect, lo farei, perché esce questa edizione qua, se ci dà qualcosa in più, se no mo rimettiamo a giocare totalmente tutti i Mass Effect, insomma. Ma posso dirti la verità, pure se mi fanno il graficone me li gioco volentieri, io l'ho giocato solo due volte cada uno, quindi diciamo che vabbè. Sì, diciamo che secondo me oggi il primo, nel senso, per la stragrande, non parlo per noi, perché a me piacerebbe comunque che rimanesse così com'è, cioè non c'ho problemi io. Però in generale mi rendo conto che magari per i più giovani la versione, cioè il gameplay del primo Mass Effect oggi insomma, diciamo, è antigaia, diciamo, no? Perché non era manco tutta sta perfezione, manca ai tempi, no? Diciamo così. E, però Mass Effect secondo me è una saga che va rigiocata con i pro, i contro, insomma, che ci vuoi avere. E, vabbè, noi ci abbiamo parlato, noi ci abbiamo dedicato puntate intere a Mass Effect. Ci abbiamo dedicato intera trasmissione. E BioWare mi pare non vi abbia dato una lira. Esatto, tra l'altro. BioWare, ma neanche Bethesda, perché noi, cioè, alla fine parlavamo di Mass Effect o di Fallout 3, non è che parlavamo di tanto altro, insomma. In realtà avremmo potuto fare dei canali YouTube tematici e ci avremmo guadagnato i soldi, secondo me, però siamo stati stupidi e non l'abbiamo fatto. Però ecco, sta Legendary Edition mi interessa, se ci facessero vedere qualcosina, insomma, non sarebbe male. Sarebbe male. Ma dice che tra l'altro l'uno l'hanno proprio... Scusate. No, vabbè, dicevo, basta che non fanno un semplice porting così più performante, perché sennò mi rompo le palle. Ma in realtà, appunto, l'uno pare che sia stato rifatto da zero. Ma lo immagino. Due e tre hanno riciclato, leggevo, poi non so quanto sia. Secondo me una bella ristrutturata gliel'hanno data, anche perché comunque quanto c'ha il Mass Effect 1, ragazzi? Che era l'Xbox 360, no? Forse pure 2008. Prima. No, l'Xbox 360. 2008 so 12 mi pare. Anni, raga, mica so cazzi, cioè nel senso. No, io mi ricordo Mass Effect 2 è uscito l'anno che ci siamo conosciuti a mia moglie, quindi sì, era su un picciotto. C'ha 12 anni abbondanti almeno. E mi ricordo che è uscito che io lavoravo in un Euronics quando è arrivato, era il 2008 o era il passaggio dal 2007 al 2008, non mi ricordo, cioè, comunque non oltre quello. Io ricordo che non ci fu questa attesa infinita tra il 2 e il 3, tra l'1 e il 2. No. Quindi insomma fu un seguito abbastanza rapido. Però un paio d'anni se ne passava. Sì. No, tra 2 e 3 ne sono passati di più. Il 3 è il suo famoso finale con i fan che si incazzano. Certo. Vabbè, quelli li cagano pure. No, infatti è quella la cosa che è peggio. Non è il fatto che il fan si incazza, cioè il fatto che se tu hai creato questo precedente, dove praticamente comunque ragazzi, io ho provato il Game Pass di Microsoft, l'ho provato per 3 mesi, perché comunque mettendo la carta di credito ti sottrae 1 euro, poi dopo non so se te lo restituisce, però ti dà praticamente l'abbonamento Ultimate, quindi quello proprio più esteso, che costa 12 euro al mese per 3 mesi. L'ho provato e devo dire che comunque vabbè, ovviamente la valutazione è influenzata molto dal fatto che in realtà era gratis, poi in realtà mi sono scordato di disdirlo e quindi comunque 12 euro del quarto mese comunque l'ho pagato, no? E alla fine devo dire 12 euro al mese non sono poche, no? Se però io alcuni servizi tipo comincio a mandarli a fanculo, si potrebbero fare, perché comunque alla fine giochi in uscita o d'uscita, o comunque anche una libreria bella vasta dei giochi che magari c'avevi lì nella tua lista che volevi giocare o volevi provare, e alla fine ce l'hai più o meno a disposizione. No, scusa Simone, perché cioè, se ci devi giocare solo su PC ti fai il Game Pass PC che costa di meno, non l'Ultimate. E perché non avevo capito come funzionava all'inizio, cioè okay. In realtà l'offerta era sull'Ultimate poi fondamentalmente, quindi c'è nel senso, perché vabbè, sì, così sicuro i 12 euro dopo, capito? Il trucco è quello. Ma no, perché l'abbonamento normale era solo un mese, invece io volevo giocare. Non lo so, ma così ti inculano dopo, quando le scordi ti inculano i 12 euro. Vabbè, in realtà lì però la colpa è tua, cioè nel senso è colpa mia, sì, cioè nel senso è ovvio che colpa è tua che ti sei messo il calendar sul calendar. Esatto, bravo. Infatti poi me lo sono messo calendar e l'ho disdetto l'abbonamento, 99 però se scordano uno, no, e lo so, e vabbè Marco, però non è che non è che stavamo via sempre con tutti con la porco qua, dicendo che è una tecnica, insomma, pure quella. Sì. Io invece volevo chiedere, quella PC quanto costa? Aspetta che ti dico, so se no. Io in realtà ho comprato una scheda da un anno, mi pare che mi pare 6-7 euro comunque, se non mi sbaglio dovrebbe essere 7 euro. Sì. No, perché io comprai la scheda da un anno. Tu fai l'abbonamento e c'hai praticamente tutta la libreria del pass completamente a disposizione, ok? Se non sei abbonato, quindi non c'è il pass, i giochi li compri come su qualsiasi altro store. Però io devo dire la verità, ho provato e installato tantissimo. Il problema, secondo me, delle persone come me è che non avendoci più una scheda, cioè un computer particolarmente aggiornato, alla fine preferirei più un servizio in streaming che funziona piuttosto che un servizio. Ma nell'Ultimate ce l'hai lo streaming di Microsoft, mi pare. Xcloud è compreso. E come funziona? Non lo so. Ti dovresti scaricare il client di xCloud e lanciarti i giochi. E vabbè, dopo proviamo, insomma. Vabbè, comunque volevo dire, sta cosa qui, cioè, per 4K, ray tracing, c'è tutto? 4 dimensioni. Addirittura 4 dimensioni. Pure la puzza, ma pure la puzza. Se te sbarano c'è tutta la puzza di sangue e merda che se cerni. Vabbè, dai ragazzi, allora tu, Umberto, c'hai qualche cosa invece che è più attinente magari alle tue corde come notiziola? Poi parliamo anche di qualche gioco che stiamo giocando. Sì, guarda, come notiziola, vabbè, non tutti sono su questo pezzo, però è uscito un ennesimo upscaler concorrente dei Mostri Sacri per le vecchie console. Che c'è costa quanto gli altri o stavolta? Che costa $275 in prevendita e costerà $300 in mortacci fuori me coglione, insomma. Partendo dal presupposto che un SSC lo si prende a €110 al momento, diciamo che a me mi pare una stronzata, no? come si suol dire. Però a me mi pare una stronzata. Sembra sia buono, tranne, vabbè, se volete un po' di inside, che comunque questa gente praticamente solito che fanno le puzze e se le odorano, nel senso che si montano subito la testa. Io ho provato a contattare a questo tipo per dire me ne mandi uno in visione, lo recensisco e poi te lo rimando. Ci può anche stare che non me lo vuoi mandare, ma almeno rispondi, faccia di cazzo. Ok. Brutto faccia di cazzo. Nel frattempo io mi stallo FIFA 21 per vedere se gira sul mio computer. Con Terra Onion. Sì. Mi hai fatto soffocare col caffè mentre ascolto. Stavo al bar e ho sentito tutta la storia, mi ha dato di traverso direttamente. Vabbè. Sì, no, vabbè, ma lasciamo stare. Però, insomma, sta gente, ragazzi, è allucinante. Cioè, veramente stanno distruggendo una cosa che sembrava bella e simpatica, capito? Questo riscoprire l'hardware vecchio attraverso varie cose, modernizzandolo, facendo in modo che la gente ci si possa approcciare senza doversi comprare televisioni da 40 kg, no? Oppure, che ne so, le varie flashcard, quello che sia. Stanno facendo in modo di distruggerlo speculando e volendo diventare una nicchia elite. Avete presente chi vuol diventare la nicchia elite, no? Capito che c'hanno pure la puzza sotto il naso, ma vaffanculo, no? Beh, che ce lo dice a noi che siamo fuori dalla cricca e orgoglioso di esserlo, insomma, scusa. Noi le puzze ce le abbiamo dove devono essere, esatto. Non sotto il naso. Ma nel mondo dell'informatica sta cosa, cioè, la nicchia ultra elite ce l'abbiamo per vizio. Ma forse nel gaming in particolare, forse si sta radicalizzando anche nel retro gaming. Cioè questa cosa di voler creare un'elite, no? Cioè, nel senso, questa distinzione, come se alla fine diventa la gente, invece di, come posso dire, essere refrattari a sta cosa, in realtà si fa ammaliare. Ah, vedi, allora se io faccio questa cosa sono un'elite anch'io, capisci? Cioè, capito un po' perché il Gamergate ha funzionato, sì. Perché? Non ho capito. Vabbè, è un discorso vecchio, stavo dicendo. Poi hai capito perché ha funzionato così bene quella meccanica per il Gamergate. Ah, facile, sì, che poi non abbiamo più persone che vogliono sentirsi parte di qualcosa. Lo so. Vabbè, poi non abbiamo più parlato. Ne parleremo. Tra l'altro, no, faccio una piccola appendice dicendo che ho detto, vabbè, vediamo come gira sul mio computer FIFA 21 e lo sto installando, però ovviamente dal Game Pass dice che devi comunque installare i client di Sì, fallo, è una fesseria. Electronic Arts lo devi fare una volta per tutte, però praticamente adesso con questa cosa tra Ubisoft, Steam, Xbox, ci avrò 6, 7, 8 client installati sul computer, compreso quello di FX Interactive. che penso di avere solo io. Veramente c'è un flash, un client FX. Sì, perché tra l'altro è FX Interactive, come lavora? Lavora come lavorano i villaggi turistici. Cioè non lavora in euro, lavora in punti, sti pezzi di merda, capito? Che è una cosa che io spero. Se un gioco devi comprare la scheda punti. Tu compri i punti, ok? Però guarda caso, il pacchetto dei punti è sempre superiore rispetto a quanto ti serve per comprare il gioco. Sì, ma che giochi stanno su FX Interactive? Vabbè, i giochi di FX Interactive, ma ce l'hanno tanto. Il catalogo di beh, non so tantissimi, però ci stanno. Vabbè, c'è però pure qualche vecchia gloria interessante. Cioè, comunque. Tanto è merda, però tanta roba. Sì, assolutamente. No, vabbè, però cioè, insomma, alla fine comunque qualcosa ce la trovi. In realtà io. E tra l'altro la cosa bella è che ti danno il gioco quando tu compri, un po' tipo GOG, e ti danno dei file aggiuntivi, tipo la soluzione del gioco. Perché mi dai la soluzione del gioco? Cioè è triste sta cosa, capito? Che già sanno che non ne va. Ma io Runaway per esempio me lo gioco senza bisogno della soluzione, insomma, comunque. Vabbè, dai, comunque niente, scusa... No, riavvio necessario del computer? No, non so fare la diretta. No, adesso. No, no, grazie, no, grazie. Sei stato gentile. Il cloud del game di Xbox, perdone, è una beta. Quindi. Sì, no, ma anche l'applicazione per lanciare i giochi del Game Pass fino a 2 mesi fa, credo. Sì. Era marcata come. Ma anche questa di Electronic Arts che ho appena installato è una beta. Cioè, nel senso, questa. No, allora, tu se c'hai Windows 10, c'hai l'applicazione di Microsoft Store, no? E tu ti potevi fare l'abbonamento al Game Pass e poi i giochi li trovavi nell'applicazione Store di Windows, potevi lanciarli tranquillamente da là. Poi hanno fatto l'applicazione specifica dei giochi del Game Pass che si chiama tipo Xbox App, una roba del genere, che fino a un mese, 2 mesi fa era marcata come beta, ora è diventata stable, quindi non... Però no, per vedere penso. Che ne so, il catalogo del giochi in cloud, cioè una gabbia. C'è un'app specifica. No, credo che ti dica. Che non puoi vederlo su PC. No. Cioè, oddio, poi ci sarà sul sito di Microsoft, immagino. Cioè, avete tempo di giocarvi tutta sta roba, quello che vi chiedo. No, vabbè, però. Uno si gioca quello che vuole. In realtà, io lo dico comunque. 200 euro di scheda grafica, magari se la cava con PC. In realtà io comunque qualcosa ogni tanto la giochicchio. Ma più che altro io ho fatto l'abbonamento perché volevo giocare a Westland 3, no? Sì. Però in realtà, nonostante essere un gioco immenso, grande, fighissimo, comunque tecnicamente. No, non quello. Il problema è che comunque secondo me 59,99 dopo tutta la campagna delle raccolta fondi e roba del genere, a me mi sembra un po', devo dire la verità, mi sembra un po' troppo, no? E alla fine comunque io me lo so giocato virtualmente gratis, perché comunque io l'ho giocato durante i 3 mesi in cui c'avevo l'abbonamento gratis, quello e anche altre chicchette carine che alla fine mi so giocato. Poi dopo adesso mi vengono in mente, dico vabbè, c'ho ancora fino al 28, mi stavo installando FIFA 21, ho dovuto installare questa cosa di Electronic Arts in beta, anche quella, tutto in beta, cioè le cose, sì. Cioè, che in realtà in beta significa io do il programma che è pronto, però può essere che è una merda. E allora ti dico che in beta così non me rompi i coglioni, perché questa è un po' la filosofia, secondo me, si nasconde dietro tutta questa terminologia, diciamo così. Io invece mi avete messo il dubbio, mi sono andato a vedere i giochi che ho giocato da quando ho preso il pass, che prima di non so tantissimi, però per esempio l'ultimo, che è Narita Boy, che datevelo a vedere, è proprio bello, però mi è dispiaciuto non avergli dato i soldi, perché il gioco è fatto, l'ho trovato così carino che mi è quasi dispiaciuto. Vabbè, dagli a runtime i soldi, dai. No, vabbè, ma li prendo tutti stesso, li prendo. No, vabbè, basta chiedere. No, in realtà poi sono andato a vedere tipo il blog degli sviluppatori, che più o meno si sono fatti sfuggire che con i soldi che gli ha dato Microsoft per mettere il gioco nel pass, più o meno si sono ripagati le spese di sviluppo. Quindi io se vi posso dare un suggerimento, questo lo do anche a Umberto, che sicuramente troverà motivo per essere interessato, e io vi suggerisco Genesis Noir, che non so se sapete che cos'è, ma è una sorta di avventura grafica interattiva d'animazione con uno stile artistico veramente bellissimo, cioè una cosa, è tutto animato, cioè tutto un po', non lo so, veramente non te lo so descrivere, non è molto visionario, molto astratto anche un pochino, cioè nel senso, però secondo me vale la pena almeno giocare la demo. Penso che su Steam si chiama? Genesis Noir. Sta per l'appunto nel pass. Sì, sta nell'appunto nel pass, ma in realtà mi sa che su Steam c'è la demo, se non sbaglio. Potrebbero averla levata, però io giocai prima la demo su Steam e poi l'ho trovato qua sul pass e me lo so. Oh, parlando di demo, ho fatto la cazzata, una delle tante. Io c'avevo una, mi era stata regalata la tempo fa la key per Baldur's Gate 3. Io mi sono sempre detto non lo attivo perché non mi voglio giocare un gioco in early access che aspetto molto, no? Su cui diciamo ho scommesso emotivamente parecchio. Oh, l'altra sera sarà che stavo girato di scatole, non lo so, ho fatto il redeem della key, me lo sono installato, 81 giga, mortacci loro. Vabbè, però è grosso. Oh. E pensa che è solo al primo capitolo poi, eh? Sì, no, è un terzo, mi ho spiegato per... Sì, esatto. Una parte e sono andato, cioè me lo sono giocato, sono arrivato a un certo punto, devo dire adesso c'ho le crisi di astinenza fino a quando non lo completano, perché non me lo aspettavo, ero abbastanza diffidente in realtà, e merita di essere giocato anche solo così, cioè se accetti l'idea che a un certo punto si interromperà e dovrai aspettare il gioco completo, un po' come quando uscivano, no, gli episodi della roba Telltale, è fatto bene, cioè graficamente già ci siamo. Beh, graficamente mancano, non è male, una bella evoluzione pure rispetto a Divinity, com'era quella? Sì, Origin, sì. Cioè già anche se la mappa me lo ricorda tantissimo, cioè proprio vabbè, sempre l'aria. Sì. Sì. In realtà già parti sulla nave degli Illithid, sul Nautiloide, è già una roba che ti lascia abbastanza spiazzato, perché insomma, chi conosce quell'ambientazione, quello Forgotten Realms, i Mind Flayer, gli Illithid, che da quello che si capisce saranno gli avversari principali in Baldur's Gate 3, sono diciamo nemici di livello che incontri quando raggiungi un livello abbastanza alto, no? Quindi vederti sparati subito nella fase iniziale del gioco ti spiazza un po'. Comunque fatto veramente bene, poi c'è un'ampia varietà di combinazioni. Ne abbiamo parlato sempre qua su Ludico Forum con Leonardo Alawin. Leo aveva iniziato, ma anch'io me lo so giocato, e devo dire poi che c'è questa cosa del tiro probabilità che mentre su tantissimi altri giochi in realtà è in background, qui il fatto che è molto presente poi nel gioco, a volte ti spara in faccia, a volte ti fa un po' roder culo, devo dire la verità, perché comunque lì vedi, però ci devi sta, cioè nel senso, d'altronde il gioco di ruolo è anche basato su un fattore probabilistico, quindi su qualcosa che è anche al di fuori della tua capacità, del tuo controllo. Del tuo controllo. Sai che cos'è? Io ho rifatto una parte 3 volte. Secondo me alcuni sono predeterminati, perché un tiro l'ho fallito basso, cioè che non ci voleva anche a superarlo, l'ho fallito 3 volte su 3. Sì, credo di sì, comunque che fallisca, sì. Perché la demo non prevede che se lo... No, però ne parlammo pure con Leonardo. Infatti sta cosa, cioè, l'avevo notata pure io, che anche rifacendolo più volte, comunque alla fine evidentemente sono alcune cose che forse non so se per meccaniche di demo o perché comunque per indirizzare un po' la narrazione, comunque alcune cose falliscono e basta, cioè non è che ci sono. Ma probabilmente sì, o sono programmate oppure vanno, dipende se tu magari hai rifatto quel pezzo partendo da un salvataggio e praticamente lui ti colla i tiri prima, cioè si tira prima, come succedeva con me. Però esatto. qui in teoria da quello che ho capito io la meccanica è che ci sono in una situazione ci sono tanti tiri e soltanto uno o due sono quelli che vengono palesati, ma cioè, in realtà questa cosa succede in continuazione nel gioco, quindi alla fine comunque chissà quali fattori, no? Cioè tu vedi, ok, lì quel tiro c'hai la probabilità che quasi sicuramente va a buon fine, invece va male, c'è già un meccanismo dietro, no? Che però magari hai più è oscuro, insomma. Però lo vedremo poi quando uscirà, insomma, la versione completa. Umberto, che stai giocando tu in questo periodo? Io sto giocando Police Notes in questo periodo. Ma sto giocando quello di Shaffer. No, quello di Kojima, simpatico Kojima. No, qua, l'avventura grafica dici. Quella visual novel. Il Blade Runner praticamente, insomma. No, quello è Snatcher che è molto più Blade Runner. Police Notes è quello lì dopo, è un po' più fantascienza noir, va. Ah, sì, ho capito qual è. Sì, mo me lo ricordo. Mezzo giallo. Sì. Dai, c'è la classica corporazione tipica del cyberpunk. Vabbè, ma io che fai cazzi suoi e cose del genere. Però ragazzi, io il gioco non mi dispiace, però Kojima ogni tanto, se ce l'avessi davanti, lo prenderei a testate in bocca. A chi lo dici? Ma quello tipo tutti. Ma il tempo della mia vita è mio, io non posso mettermi a fare il gioco delle differenze con 20 borse su schermo. 20, non 3, 20 borse. Cioè, vabbè, ma in che senso? Aspetta, spiega. Allungare il gioco. Allora, hai una borsa originale e devi capire qual è l'altra borsa originale che c'è nel negozio, perché c'è una bomba dentro. Ok? Ok. E siccome questo gioco vende tutte borse contraffatte, tu devi fare spot the difference, ok? Su 20 borse. Vabbè, sì, ho capito. Vabbè, ma lì è per allungare il brodo, come dice giustamente Umberto. E Puccio. Sì, però. Però chi cazzo ha pensato che potesse essere divertente questa cosa? I giapponesi, scusa. No, i giapponesi, che per loro è soffrire tutto. Esatto. Così come un 2 dovevi collezionare le targhette di metallo se volevi vedere una roba, ed erano più di 100. Fai tu, sì, però era opzionale, no? Questo ci sta. Sì, ma invece lì è importante. Il giocatore medio dei giochi di Kojima non lo considera opzionale. Vabbè, questo è il problema, infatti, che poi dopo vabbè, comunque vai, Umbe, scusa. No, stavo dicendo, così come mi stavo ricollegando a un altro gioco che finalmente ho finito, perché non l'avevo mai finito, ero sempre arrivato a un certo punto, l'avevo mai finito, che è Super Mario Galaxy, ok? Finalmente ho finito al 100%, cioè ok, tutto. Cioè, chi cazzo ha pensato che può essere divertente raccogliere 100 monete nascoste per un livello? Mi è piaciuto tanto, ma io quelle parti le ho odiate e ho bestemmiato. È collezionabili? No, non è collezionabile, due palle. È mortacci tua. No, invece sai, a me di quel gioco la parte che ancora oggi la guardo e dico madonna mia, chi cazzo mi ha fatto fare, quando fai le stelle segrete, quelle dove devi fare il gioco di abilità in cui cammini nella palla rotolante. Ah, io sì, da quella cosa la odio, che non avete no, idea. No, l'ho fatta quasi a prima botta tutto. No, io non riesco, sono impedito su quella parte. Quasi, e però ragazzi, cioè prendi cioè sotto, allora Mario ha una giocabilità che fa paura, tranne quando nuota, ok? Quindi i quadri dove ci sono le monete da raccogliere sotto acqua, mi hanno sentito le bestemmie che arrivavano al cielo. Tant'è che mio figlio si è spaventato. Guarda, mentre non c'eri stavo raccontando una cosa simile che mi è capitata con Sekiro. Ho detto non lo posso finire perché non posso bestemmiare. Ah, ok. E ci sta. Solo io quando c'erano le partite bestemmiamo. Solo Galaxy 1 o anche Galaxy 2? No, Galaxy 2 pure l'ho iniziato diverse volte, ma non l'ho mai. La serie Galaxy, perché non, avendo preso il Wii tardi, non ho mai avuto occasione di giocarli a fondo. Però me lo giocherò, dai, prima o poi. Sono gli unici Mario che mi mancano, quindi me li devo giocare. Io il 2 non no, no, no, no, aspetta, fermi. Tu hai detto sono gli unici Mario che ti mancano, quindi vorresti dire che tu hai giocato pure quello per 3DO? Quello per CDI, vuoi dire? Certo, CDI. Mario Tell. Ah no, per CDI, già, hai ragione, sì. Non l'ho finito perché mi ha fatto cagare, però ci ho giocato. No, questo è come la AVGN, l'Angry Video Game Nerd, che si fece anche di Zelda per Philips CDI. Vabbè, ma quelli sono merda. Quelli sono veramente un qualcosa di indescrivibile. Quelli sono indescrivibili. Anche anche visivamente, cioè nel senso, anche i disegni, sì, cioè, sì, nel senso. Ma quello basta vedere le cutscene. Le animazioni delle cutscene sembrano disegnate da un bambino poco dotato di 7 anni. Un bambino okay. Monco. Ma questo bambino perché disegna così? Gli mancano le dita. Ma tipo le hanno fatti fare in Corea del Nord, questa roba strana. Sì, sì, ma è allucinante comunque. La Nintendo aveva completamente perso il senno sotto la promessa di questa collaborazione per il CD-ROM, poi fallita miseramente. Porca puttana. No, io vi giuro, sto aspettando con tutto il cuore che facciano la serie TV di Console Wars, quella che hanno annunciato un po' di tempo fa, perché voglio vedere come riproducono la scena in cui annunciano la partnership con Philips per il CD. Philips in diretta, sì, in diretta con Sony, dice, ma che cazzo dite? Che cazzo dite? ma non so se ci sono riprese di quella cosa nel documentario. Non ci sono riprese. No, non ci sono, ma pare non esistano di quella specifica. E se mai fossero esistite, non sono esistite ugualmente. Sparite allegramente. Sì, ma infatti, ma non si sa, io non, a questo punto non so neanche se è andata propriamente così, non essendoci documentazione, capito? Cioè, se sono solo dei racconti, no? Sentite, è uscito in inglese e in tedesco, credo. Io sto aspettando l'edizione italiana, però ho comprato le book in inglese. Pensavo quella in tedesco. No, quella in tedesco ancora no. Non parliamo di Germania, per favore, se no mi ricordo il viaggio e ciò. Mi ricordi della Svizzera. Soprattutto il ritorno, dici. Soprattutto il ritorno. Un giorno vi racconteremo. No, vabbè, sta su YouTube. Che cazzo, andatevelo a vedere. Infatti. Tra l'altro. In realtà pare che mi sono spoilerato che all'interno del libro a un certo punto c'è una frase di Iwata che fa capire che quando è arrivato lui a fare il presidente della Nintendo ha sempre cercato di mantenere i rapporti con cioè le aziende partner tra virgolette quanto più cordiali possibile, perché in passato le cose non erano andate benissimo. Credo si stesse riferendo a quello. A quello, sicuramente. E che inculata che hanno preso con quella cosa, No, hanno creato la PlayStation facendo i giri. Capito, non avrebbero avuto quasi concorrenti altrimenti. Sono stati poi in quel momento vedi che la storia segue dei flussi tutti strani, quindi comunque un bello, a parte sta cosa, l'avventura lì di Kojima, ma in inglese, quindi da stare a giocare. Sì. Solo in inglese, perché in realtà non è mai uscita in italiano. No, non credo. No, vabbè, anche in inglese è una fan translation, è un gioco che non è mai uscito neanche in inglese questo. Police Notes nello specifico. Snatcher sì, in versione Mega CD è uscito in inglese ufficiale, però Police Notes no. E quindi vabbè, però me lo sto giocando in live dalle 11 a mezzanotte ogni sera su Twitch. Carino. Vabbè, sì. Si riesca a sopravvivere. Sì, però non traduco tutto perché mi cago il cazzo, e non essendo un traduttore mi richiede uno sforzo troppo grande. Ma tu non devi, secondo me, perché vedo tutti quelli un po' dicendo ma adesso non ce la faccio a tradurre. Uno deve spiegare il senso della cosa. Adesso è così, succede qui. Faccio questo, ragazzi, e vaffanculo. Il senso lo spiego, capito? No, parlo pure, che dico, però sai, sarebbe carino, no? Se uno avesse quel tipo di. Però già stai giocando, già stai facendo. No, capisco. Perché io poi riesco a tradurre al volo, ma non riesco a formulare una frase bella. Hai capito? Cazzo che ci metto l'inglesismo dentro, capito? Adesso canna quello, sai, mentre. Esatto, sì. È una cosa che non sopporto. No, certo. Infatti, poi adesso va tanto di moda sta cosa di utilizzare l'italianizzazione del termine inglese, che ragazzi. Tipo a grido, one shottato, ma che cazzo, ma io dico porca puttana, no, one shottato ancora dai, no non si può sentire. A grido con voi, provate nel mio lavoro che mi sento roba tipo le chiamate del mio responsabile, ciao Carmine, abbiamo una issue, cioè un problema. Sì. Cioè abbiamo questa roba così. Ma allora quello però, cioè, non è che in Italia, come tutti quelli dicono il cavo HDMI, è una cosa che io non so, poi mi si schizzano tutti i neuroni, fanno proprio ma più o meno di quando fanno le foto in orizzontale, in verticale. Diciamo che è una bella combo, secondo me, uno che si fa il video in orizzontale dicendo HDMI. Io posso anche schiattare, penso. Potrebbe succedere una cosa del genere. Marco, tu che stai giocando? Io come al solito sto giocando Elite, cioè, no, sto giocando Elite, sto giocando a The Medium, poi sto giocando a diverse cose. Ah, The Medium, no, The Medium parliamo, non ne parliamo. Sto finendo una, eh. Bravo. Una perché così il vero giocatore non finisce i giochi, ma ne comincia il più possibile. Cioè, io attualmente ho finito da poco Cyberpunk, approfittando del fatto che GeForce Now quel pochino che mi permetteva di giocarci ci ha giocato, sono riuscito a finirlo e, quante ore? E poi ho sembra più di 30, no, di più, cioè un fottio di ore. L'avevo visto per qualche tempo fa, ma l'hai visto per dimenticarlo? Visto per dimenticarlo, no, me l'avevano chiesta questa cosa, l'avevo vista apposta, però adesso poi da, si è dimenticata, vabbè dai, sì, perché dimenticarlo. Però ho anche cominciato Assassin's Creed Odyssey, che avevo praticamente comprato tipo 8,50 euro qualche tempo fa. Io però ogni volta posso, scusami, ogni volta mi viene in mente Assassin's Creed, cioè non so perché. Assassin's Creed è quella, la versione quella del Vaticano. No, è quella dei cosi dei Geronto Gamers, Assassin's Creed. Cioè, qualcosa l'avevamo fatta con questo. Può essere. No, mi ricordo, magari non si chiamava così, ma il tema era quello. E poi di medio, ma io ho anche cominciato Hitman, il remake di qualche anno. Ah, ok, sì. Quello che era uscito ad episodi, dici? Sì, che però adesso l'ho preso gratuitamente da qualche parte, sempre su GFN, perché ovviamente il mio PC con una 760. Comunque stavo vedendo Cyberpunk, quante ore di gioco ci saranno, non me lo dice, cioè dovrei avviare il gioco ma non mi va. Ma io non ho capito, scusa, però dato che abbiamo parlato prima del Game Pass, cioè per giocare in streaming col sistema di GeForce, con quello di Nvidia, ma bisogna fare un abbonamento? No, ti devi iscrivere e c'è la versione base che è senza ray tracing, senza 4K, 1080, e c'hai un orario, c'hai un'ora gratuita e fai la fila, però diciamo che normalmente puoi aspettare da 30 secondi a 2-3 minuti. E dopodiché dopo un'ora scade e devi ricominciare da capo la fila, più che altro, però dipende insomma dai momenti, non ci ho avuto grossi problemi. E se non hai salvato? No, salva. Cioè c'è salvataggi automatici, se non hai salvato, stai facendo una sessione, attacchi al cazzo. Quindi però ti dà il conto alla rovescia, comunque non è che te sto attaccando. Sei completamente in preparato. Te sto per staccare. Ti ho detto che te sto per staccare, hai capito? Te sto staccando. No, adesso è brutto. Ma dove te stacco? Lo brutto sono gli ultimi 5 secondi, perché te compare, te scurisce il monitor, diventa 5 gigante, 4, 3. Ah, quindi te ruba pure 10 secondi tutto sommato, perché ti sta rubando quei secondi. 10 secondi, esatto, sto figlio di puttana. Quindi lì devi stare attento, devi andare a salvare il volo. Altrimenti quanto costerebbe l'abbonamento? Allora, in realtà non mi sono informato su quanto costerebbe, okay. Perché c'erano delle promozioni tipo a 7 euro al mese, però devi pagare tipo un anno consecutivo. Mi sembra che sia sulle 10 euro al mese, però mi dovrei vedere. Vabbè, ma tanto più o meno i costi sono sempre quelli. Però non è che me l'hanno parlato, non è che me l'hanno parlato un granché. Finta di passare al piano superiore, lì ho per finta, anche perché non c'hanno la mia carta di credito e quindi non potrebbero prendere. Per finta, io dico per finta, che sei un bambino, io te lo sto di per finta. Per finta, io ti credo. 9,99. Sì, però dai. C'è anche l'addebito annuale. L'addebito annuale costa 99,99 900 euro. Praticamente le fanno risparmiare due mesi. 70 al mese. Due mesi. Sì. Sì, paghi due mesi in meno. Vabbè, però il problema è che non me l'hanno parlato un granché come servizio streaming, cioè, a livello di compressione. Attenzione, però il problema è che io non te posso dire se ci ho mai avuto grossi problemi, perché sai, ci ho fatto e prima zona come tu sei già un problema, certo. Sì, ma in realtà penso che fosse, che sia un problema generico per tutti i gestori nella zona mia, diciamo che non è fibra friendly questa zona, per cui ecco, adesso per esempio 10 minuti fa è cascata la linea, non so se ve ne siete conto. No. Ecco, è cascata la linea, però vedi, quando casca non ce ne accorgiamo, quindi tutto sommato non ve ne accorgere. Io ho lanciato anche una bestemmia, una bestemmia e che a sua volta mi ha lanciato uno speed test, e praticamente secondo lo speed test adesso sto in 40 in download, quindi dice vabbè tutto sommato, ma in due in app c'è qualcosa che non va. Infatti mi dice guarda, forse è caso di chiedere aiuto all'assistenza tecnica, però probabilmente devo solo riavviare il modem perché non so che cazzo succede in questi periodi. Vabbè vabbè dai, sì, comunque mo contiamo le storie di famiglia fra un po'. Comunque no, la cosa invece che sta lanciando grande gioia per gli appassionati di Elite Dangerous è che fra da poco finita la fase alfa di Odyssey, che è praticamente l'espansione che aggiunge, oltre a miglioramenti grafici bla bla bla, la possibilità di scendere dalle navi e quindi di poter utilizzare il personaggio, l'avatar, come personaggio in prima persona, in POV, cosa che in Star Citizen c'era da 10 anni, insomma. Esatto, esatto, però Star Citizen c'ha 4 pianeti, dico, quindi c'è tutto sommato, bellissimi, stupendissimi, però... E quindi hanno aggiunto questa nuova modalità con un'alfa che è durata tipo 2-3 settimane, è finita un paio, 2-3 giorni fa. E per questo insomma hanno provato, loro dicono, una vecchia build per vedere, fare dei test di networking, per vedere se ci reggono le stanze bla bla bla bla. Ieri durante praticamente una live per far vedere il netcoding, praticamente stavano facendo 3 o 4 giocatori, sono entrati nella stessa stanza ed è crashato il gioco, però tutto a posto, vabbè, il dai, gioco quindi verrà è l'alfa, poi ovviamente dopo l'alfa si passa all'alfa più, esatto, no, all'alfa punto 5. Dopo l'alfa c'è la beta, i soldi, release il 19 di maggio esce la versione definitiva. Bene, quindi saltiamo, cioè, un passaggio interessante. Ma perché farla prima? Farla durante il gioco. Ma io te l'ho detto che secondo me la cosa dell'alfa è solo una scusa per dire non ci rompete i coglioni, cioè così. Ma sì. Vabbè, quindi tu hai finito, comunque ricapitolando, tu hai finito Cyberpunk e ti è piaciuto? Cyberpunk 2077, guarda, tutto sommato è un bel gioco, non è assolutamente proprio un gioco memorabile secondo me, cioè tra macchine che esplodono, che scompaiono nel terreno, personaggi che vengono schizzati da tutte le parti. E vabbè, quello succede pure su GTA. No. Sicuramente il gioco che doveva essere rifinito per un altri 4-5 mesi secondo me. Non hanno cannato dai, su. Però devo dire che la storia, le side quest sono belle, sono più che godibili. Però che personaggio hai fatto, Marco? Che sentiero hai scelto all'inizio? Un fattone con i capelli e la barba blu. No, ma quindi hai fatto un nomad? Quindi. No, è un sì. No, ho fatto un vita la strada. Street cazzo in pezzi. Vita la strada. Okay. Però praticamente è diventato un netrunner, quindi cioè, capiamoci. Il netrunner è praticamente Dio. Quindi quando arrivi a un certo livello, cioè, non devi neanche tirare fuori le armi, cioè non devi fare un cazzo. Ammazza sputi, esatto. No, probabilmente carichi dei virus o carichi delle cose sui nemici, si ammazzano tra di loro, li fai scoppiare, cioè alla fine puoi anche stare nascosto in stealth tutto il tempo e ammazza tutti. Beh, divertente, cioè, molto coinvolgente, molto. Ma io la seconda run infatti me la sto a fare con un personaggio che piglia cazzotti in faccia alla gente, perché pure io la prima run l'ho fatta netrunner e a un certo punto, cioè veramente fai le magie. Io non so di farlo, ricominciarlo, proprio non mi prende proprio di ricominciarlo. Ma volevo fare proprio un path completamente diverso, anche perché poi hai più modi di finire alcune side quest, quindi io ne ho visto solo uno, quindi vorrei vedere anche un po' gli altri. Poi vabbè, a me piace molto il genere, quindi sono strano io. Invece io, così, non ci ho avuto il tempo, queste settimane non ci ho avuto proprio il tempo, devo dire la verità. E c'ho tante cose che vorrei finire, compreso il gioco di Umberto, che sta lì e mi guarda languido e dice: ma quando... hai iniziato? Ho iniziato, però sono rimasto a dove ho iniziato, cioè nel senso proprio non, ma perché non ho praticamente toccato niente durante queste settimane, vuoi anche per colpa di Runtime Radio che mi ha fatto veramente bestemmiare tanto, ma adesso le cose vanno benissimo, cioè devo dire che stanno andando bene. Tra l'altro, nuovo palinsesto, ragazzi, poi pubblicheremo il calendario ufficiale. Abbiamo organizzato tutto, stiamo riorganizzando tutto, insomma le cose sono sempre un po' più fluide. Cioè, abbiamo avuto quel tempo di rodaggio che buttavamo dentro, facciamo 60.000 trasmissioni, poi abbiamo detto sì, ma così ogni giorno, tutte le mattine alle 7 tu stai lì a bestemmiare e a fare la programmazione, e insomma non è che è tanto fattibile. Detto questo, però, io oggi mi è arrivata una mail da Steam che mi ha detto: oh, c'è Ronin che è in sconto. E siccome che ero molto curioso, molto curioso. Scusa, Red Ronin? Red Ronin, esattamente, proprio lui. E infatti parla sempre dei Beatles, delle cose. I Beatles, meno, dai. I Rolling Stones. Vabbè, comunque. Ronin, che è questo. Mi ricorda molto un gioco che mi aveva fatto vedere Simone Cusella. Se avete presente quei platform bidimensionali del tizio ninja che deve fare tutto in stealth, no? Sì, ecco, bello. Ecco, questo è una cosa molto simile. Però in realtà non è stealth, cioè nel senso tu c'ha le stesse meccaniche da ninja, cioè tu devi saltare sui palazzi e cose, da rampichi, vai insomma nelle ombre, se vai nelle luci, le luci ti vedono, però lo scopo principale uccide tutti, quindi non è che fondamentalmente lo scopo è nasconditi e non farti vedere. Ma la particolarità di questo gioco è che, pur essendo un platform, non è frenetico, ma è addirittura a turni. Che cazzo stai a dire? Eh sì, io volevo provare sta cosa, ero curiosissimo di vedere come fa un platform bidimensionale a essere un turn based. E in realtà è figo, devo dire che è figo. C'ha solo una complicazione, che va molto di moda durante questo periodo di tempo e che a me mi sta un po' sul cazzo, perché lo capisco che il giocatore hardcore vuole essere gratificato, perché il gioco deve essere difficile e ovviamente deve essere gratificato, però devi permettere anche agli altri di giocare se non sono poi così hardcore. In realtà poi se uno ci si impegna, secondo me alla fine ci arrivi a determinate cose, perché tu praticamente per superare il livello devi fare normalmente tre cose, e per ora io ho superato i livelli sempre facendone due su tre, cioè nel senso alla fine c'è l'allarme, a me mi scatta sempre per esempio, no? E ti dice non, cioè tu acquisisci dei punti abilità soltanto se fai ogni volta i livelli tre, con tutti e tre gli obiettivi completati. Mi sembra un po' limitativo, perché tu comunque poi alla fine c'hai la tendenza ad andare avanti nel gioco, solo che a un certo punto tu nel gioco più di tanto avanti non ci puoi andare, perché c'hai soltanto l'abilità di base ed è praticamente infattibile. Ciò nonostante, volendo, uno riesce ad andare avanti ancora un po', insomma, diciamo così. Però lo scopo sarebbe quello di giocare i livelli fino a che tu non lo fai perfetto, e a me sta cosa mi caga il cazzo, perché io non so uno che in generale c'ha tutta sta voglia di rifare sempre le volte, cioè soprattutto quando lo finisco. Se non finisco lo capisco che lo devo rifare, perché lo devo finire. Comunque è figo, perché tu quando sei nella meccanica normale più o meno non c'è nessuno, non c'è niente, quindi salti sulle cose da lampichi, fai e quella, devi capire che ne so, sulla vetrata devi saltare all'interno della vetrata per romperla, tutta una serie di piccole meccaniche. Però poi dopo, quando tu entri in combattimento, perché a un certo punto comunque entri in combattimento, perché comunque la gente la devi ammazzare, e il gioco va in pausa e praticamente ti fa vedere il fatto che tu sei sotto mira del nemico o dei nemici, perché potrebbe essere, e ovviamente tu devi saltare per evitare i proiettili, e allo stesso tempo li devi ammazzare anche i nemici. Quindi in teoria la cosa più semplice è, se tu atterri, cioè la prima volta tu devi atterrare strategicamente sul primo nemico, così lo abbatti subito e te levi il problema, perché sennò se tu salti al centro della stanza e tutti si allertano, sei un coglione, nel senso, diciamo così, no? Quindi diciamo il primo tempo lo perdi un attimo a capire in che maniera devi imboccare dentro alle stanze, insomma alle situazioni, se da sopra, da sotto, a destra, a sinistra. Poi praticamente devi ammazzare i nemici con questa meccanica a turno, che è difficile un po' da spiegare, perché in realtà è a turni, cioè semplicemente a turni. Tu ovviamente c'hai solo il turno tuo, non c'è mai il turno del nemico, il nemico semplicemente ti spara, cioè quindi quando tu hai completato il turno successivo, se tu sei ancora nella traiettoria del proiettile, il proiettile te prende e tu sei morto. Ed è una cosa figa il fatto, cioè, c'è anche questa cosa molto realistica, che tu comunque muori al primo colpo, non è che muori dopo e ti sparano 3-4 volte, cioè nel senso, come te beccano sei morto. Però è a turni, insomma, sta cosa devo dire che è figa, perché ti dà un po' di tempo di riflettere, devi capire insomma un po' come funziona la determinata meccanica, quindi devi zompare da una parte all'altra ammazzando tutti, mentre questi ti sparano. Quindi se tu ti immagini la scena dal punto di vista dell'action, sarebbe molto coreografica e molto complicata per quanto mi riguarda a me, che ho il senso del ritmo di nonno in cariola, però allo stesso tempo invece mi permette di giocarlo proprio perché c'è il tempo di ragionare sulla strategia. Figo, io ve lo consiglio. Tutto sommato è divertente, veramente ci ho giocato un paio d'ore, 2 o 3 ore, quindi poi ci andrò avanti, anche perché come ho detto sto video non ho giocato niente, però mi è arrivata sta mail, ero curioso già da tempo, il prezzo era tipo 2 euro forse, sta, non lo so, comunque non mi ricordo bene, ma comunque veramente molto in sconto, e quindi ho preso l'occasione, l'ho preso e l'ho installato e ci ho giocato, insomma devo dire che è divertente. Provatelo, perché comunque costa un cazzo e alla fine i giochi è molto old style proprio come tipo di gioco, cioè nel senso c'è l'introduzione con l'immagine, le scritte che ti descrivono la storia tra virgolette, quindi cioè, è proprio Amiga, cioè nel senso è proprio roba Amiga questa, insomma, però è figo, dai, vale la pena secondo me giocare. Provatelo, poi fatemi sapere se vi piace, se non vi piace poi bestemmierete. Chi è rimasto? Ma guarda, riusciamo a bestemmiarti anche senza giocare. No, ma quello vabbè, quello è un altro discorso. Però, cioè, voglio dire, almeno fatelo con motivazione. Se non lo fate senza motivazione, perdete l'anima. Pizzi, Starfield non uscirà in quest'anno. Ah, cazzo, quello mi scoccia. Quest'anno non significa niente nel 2021. Niente nel 2021, no. Cazzo, quello ero curioso proprio. Scusate, ma visto che prima Marco ha tirato fuori Elite, no? Il fatto che ora puoi scendere. Ma Star Citizen? Avete notizie? Perché non uscirà neanche quello quest'anno. No, ma quello vabbè, quello rimarrà così per sempre. Ciò nonostante hanno inserito delle feature veramente incredibili. Addirittura il tipo di riverbero che fa la foto la voce a seconda degli ambienti dove ti trovi. Cioè, stanno a fare un lavoro mostruoso. C'è chi mi ha chiesto di fare una puntata speciale tutta dedicata a Elite. Però devo dire la verità, non bisognerebbe conoscere qualcuno che lo gioca. Insomma. Scusa, Star Citizen, sì, scusa. Sentite, io uno che gli ha dato dei soldi e che ci sta facendo. Si sta facendo questa eterna alfa, ce l'ho per le mani. Sarebbe interessante, perché comunque ne vale la pena. Comunque io sono stato molto critico sul modello di business di questa operazione, che alla fine oggi è arrivata a 300-400 milioni di dollari. Io non so manco perché più di 300. Insomma, voglio dire, alla fine no, oddio, 400 leggo, vado bene. Secondo me vuole 400, ho letto, può darsi che l'hanno superato. Io ero rimasto a 300 e poi 380, quindi per sicuro l'abbiamo superato. Sono molto critico su questa forma di modello, che secondo me è insomma è ambigua, e poi pure comunque le sottoscrizioni, il fatto che le astronavi a $700 sì, 1.500. Esatto, sì, quello secondo me è veramente la parte zozza del, scusa, che dici Umberto? No, dico che grandi, cioè proprio fare, no, rubare questo punto di vista, cioè, no, non è rubare, loro te li chiedono, sei tu che glieli dai, sì, però te li chiedono, in realtà te li rubano perché ti fanno venire la smania, hai capito? Sono anche dei grandi, però sono dei, sì, grandi, sì, perché poi dopo si crea il fanatismo, il super fan, il ragazzino che comunque vuole, che poi in realtà oggettivamente da quello che ho capito non lo so quanto cambia poi alla fine all'interno delle meccaniche, insomma, il fatto di avere l'astronave A piuttosto che quella B, però è chiaro che per ora sono solo skin, almeno stanno a Michele, la persona che ti dicevo, sono solo skin. Beh, skin, cioè, è vero, alcune sono più grandi, non so skin, sono modelli, cioè nel senso l'astronave no, puoi solo vedere, esatto, non le puoi usare tutte ancora, cioè per dire, la persona di cui stiamo parlando se n'è comprato uno perché ti piaceva, non costava tanto, stava una trentina di dollari mi pare, l'ha provata in gioco, l'interno è praticamente indistinguibile dal modello base, cioè quindi ancora in questo momento anche peggio la cosa. Componente estetica, cioè poco. Questa cosa, magari... questa cosa peggiora chiaramente il, insomma, l'approccio, l'atteggiamento dei produttori di questo gioco, insomma, che chiaramente allora da una parte comprendo il fatto che servono risorse per costruire una cosa così immensa, perché è vero che, come dice Marco, si basa su 4-5 pianeti, quindi diciamo che tutto è circoscritto all'interno di un sistema planetario. Però è vero pure. Sono due sistemi, cioè so pochi sistemi. Sì, comunque è poca roba. Sì. Un fottio, ma ne sono usciti pochi. Sì, vabbè, comunque è poca roba. Però la qualità e la quantità di dettaglio, cioè, è stratosferica. Anche dei bug, cioè, vabbè, i bug secondo me ci stanno pure su Elite, cioè su tutti i giochi oggi. No, vabbè, su Elite sono solo bug, cioè, quelli sono normali. Cioè, nel senso, adesso tu trovi il gioco comunque più grande di una certa dimensione che non c'ha i bug, cioè, vuoi dire. Ho visto, l'abbiamo visto proprio, insomma, già addirittura l'abbiamo visto con Cyberpunk che ha creato proprio il vero panico, insomma. Però ecco, diciamo che Cyberpunk. Diciamo che per quanto io sia critico, devo ammettere che comunque il progetto ha il suo fascino e riconosco che c'ha il suo fascino, questo è tutto dire. Il fatto di vedere anche le stazioni spaziali, comunque che c'è vita dentro, che c'è, ci sono dettagli, c'è tutta una serie di situazioni, insomma, ragazzi, mica è roba da stronzi, insomma, segnati che stanno a fare un gran lavoro. Guardate, mi sono perso il bookmark, però una volta ce l'avevo, adesso ve lo ritrovo, magari lo mettiamo nelle note dell'episodio. C'era un Reddit un po' di tempo fa gestito da un ex programmatore di Cloud Imperium Games che aveva spiegato un po' come stavano, cioè come andavano le cose, no? Lo spiega, prima per un po' ne ha parlato da interno lavorandoci dentro, poi quello che era uscito e poi ha cambiato lavoro, però dopo che è uscito fa il panettiere, innanzitutto come si chiamava e poi ha mollato un po' i cavalli, ha smerdato, no? Poi ha smerdato, esatto. Io di tutto il discorso complicatissimo che aveva fatto sullo sviluppo eccetera eccetera, cose che io, non facendo lo sviluppatore, non posso capire più di tanto, però c'è una frase che mi ricordo che diceva a un certo punto: ci sono due modi di portare avanti questo progetto, come vuole Chris Roberts e come serve per portarlo a termine. Le due cose non coincidono, quindi diciamo non era molto ottimista sul futuro del, sì, diciamo che Roberts si fissa anche sui particolari, tra cui per esempio il particolare colore che deve fare lo scudo colpito dal laser, e fermava la produzione per settimane per cercare il giusto colore, la tonalità di rosso, esatto. Per Binca, esatto, che è un po' fuori da, insomma, vabbè, dai, comunque tu invece, Uccio, che stai giocando? Io ho deciso di sbloccare la beta di Baldur's Gate 3, come però in realtà c'ho anche sotto mano il remake di Nier, quello che è uscito per PS3, cioè, scusa, perché il remake anno? È uscito l'altro anno? No, Nier Automata è uscito l'altro anno, invece... Nier è il primo gioco di giusto è arrivato in Occidente, diciamo, un po' traumatizzato come gioco, nel senso che erano stati proprio cambiati un po' l'aspetto del protagonista e parti della trama, cioè la sorella era diventata tipo la figlia, se non mi sbaglio, nella versione originale. Ma magari era così, cioè la sorella poteva essere benissimo la figlia in certi contesti. No, perché poi gli hanno proprio cambiato l'aspetto al personaggio. Vabbè, comunque a me Yoko Taro come game designer piace tantissimo, perché francamente di gente che riesce a mischiare tanti generi diversi in un gioco solo non ne conosco tanta. Automata mi aveva fatto impazzire, il primo Nier lo avevo giocato, lo avevo apprezzato, però sapevo di questo, diciamo, problema di localizzazione, quindi ero curioso di vederlo nella sua forma originale e niente, l'ho preso per PC. Ho fatto il primo capitolo, poi mi sono fermato perché comunque, diciamo, non è esattamente un inno all'allegria quel gioco, così come non lo era Automata, ma adesso lo riprendo magari nel fine settimana. E, diciamo, se siete di buon umore è un'ottima scelta come gioco, perché ci sono tantissimi elementi diversi di gameplay all'interno dello stesso gioco. Vi trovate a gestire più o meno contemporaneamente un gioco di ruolo, uno shoot 'em up e un platform. e altro nel proseguo del gioco. C'è anche il cruciverba, c'è anche i puntini, Tetris. Comunque sta gioco sta sopra i 3,50 per ritornare velocemente. Sta sopra i 3,50, sì. Porca puttana. Però vedo che per esempio ci sono già i romanzi ambientati nel mondo di Star Citizen, cioè... che sono l'unica cosa finita, ma tra l'altro. Sì, probabilmente quello e le foto, quindi le foto. Stavo dicendo, comunque, se state di buon umore, cioè non avete particolari problemi nella vita, giocatelo. Se avete un minimo di, diciamo così, di tristezza interna, accannate e passate ad altro, perché diciamo è una mezza tragedia che si dipana davanti ai vostri occhi. Però diciamo, strano, perché di solito i giochi giapponesi sono sempre così, no, pure automata, proprio l'allegria assecchiate. Dicevo, lo apprezzerete molto come tipo di gioco, però ripeto, non è esattamente un prodotto per tutti. Yoko Taro ci ha pure già messo le mani avanti dicendo no, tanto lo so che venderemo pochissimo con questo remake, però era importante che ci fosse. Ripeto, effettivamente è un gran bel prodotto, ma quando magari lo mettono a sconto o se lo mettono nel pass, visto che automata c'è andato per PC, dategli sicuramente uno sguardo. Ma Phantasian rimane esclusiva per Apple? Cosa che non lo so, credo di sì. Per Apple, quello, il servizio gaming. Ma sì, quello c'è, cioè, Apple Arcade, là, come si chiama, insomma. Sì. Perché alla fine mi affascina a me quel gioco, devo dire. Molto old style, insomma, come tipo di JRPG a turni. Però insomma artisticamente sembra veramente molto bello. Mi dispiacerebbe se rimanesse esclusiva. Ma quello fatto iOS e macOS è possibile. Sì. Tra l'altro quello, se non mi sbaglio, c'è il tizio di Final Fantasy dietro. Sì, l'autore sì. Se no non si chiamava Phantasian. Anche questo è finito. Diciamo che è il riferimento, l'allusione è più che. E più che. No, perché tra l'altro tutti gli sfondi erano fatti con i diorama. Con i Practical Effects, sì, con i diorama. Sì. Infatti sembra sempre una bestemmia. Diorama. esatto. Dopo Bioparco, diorama. Bene. E, Umberto, così andiamo pure un po' a chiudere, tanto era per farsi un po' una chiacchierata. Un gioco che consiglieresti anche tra i, insomma, nel retro gaming o nei giochi, insomma, che hai giocato ultimamente, che proprio ti senti di consigliare o suggerire? Comunque, dice, ragazzi, ho provato sto gioco, proprio devo dire che, a parte il tuo, no, che dopo ne parliamo, così ci chiudiamo anche la puntata, insomma. Sì, guarda, l'ultimo gioco che mi ha lasciato piacevolmente soddisfatto non è neanche retro ed è stato God of War, diciamo il reboot, quello che quello sia PS4. Quello col figlio. Quello col figlio, non è che è un reboot, diciamo seguito, è un seguito col nome da reboot, diciamo, dai, un seguito col nome da reboot. Hanno ributtato la numerazione. Sì. E mi è piaciuto, mi sono davvero divertito, come non succedeva da tempo con i giochi moderni, diciamo. Bella storia, belle meccaniche, diverso rispetto agli altri, che per me è sempre un bonus più che un malus, quindi sì. Non lo so, anche se diciamo a primo approccio, così a guardarlo, sembra un classico action adventure, action appunto in terza persona, che andavano molto in quel periodo lì, però in realtà sì, narrativamente è anche molto interessante. Poi secondo me si distacca anche un po' dallo stereotipo del God of War, insomma. Sì, tantissimo. È molto profondo, esatto. Sì, è molto profondo e anche molto sentimentale, tra virgolette, cosa che assolutamente non era, cioè era sempre tragico. Non è assolutamente il classico Kratos, infatti. Sì. Allora, c'erano dei sentimenti nel primo tempo, era l'odio e basta. Esatto. Ti dico, era tutto tragico in quest'ultimo, non trapela solamente appunto l'odio o la tragicità della cosa, ma hanno reso bene secondo me la durezza di Kratos, che comunque ha dei sentimenti per questo ragazzino, insomma, cosa che non si era mai vista prima. Secondo me è ben riuscita. Poi insomma qualche caduta un po' di gusto secondo me c'è, però ci sta in un'opera così grande, cioè voglio dire, capita, no? Niente è assolutamente perfetto. Io sì, però comunque hanno umanizzato il personaggio in qualche maniera, pur cioè, volendo lasciare quella sua indole, no? Quel suo carattere, però l'hanno umanizzato, l'hanno reso più realistico, diciamo, come personaggio. E ti fa quasi tenerezza ogni tanto, che non avresti mai pensato. A me... L'unica volta che mi ha fatto tenerezza era il perché fosse diventato così, no? Ma senza voler fare, no, cioè il perché fosse diventato così cattivo, violento e rancoroso, lì ti fa un po' una cosa, però in generale non si è molto empatici secondo me verso Kratos, perché veramente nei primi tre è una bestia, è una macchina da guerra, è stato picchiare e massacrare senza pietà, strappare teste, strappare ali, braccia, arti, insomma. Invece questo qui si dimostra, insomma, fa vedere poi il padre severo, insomma, fine, cioè non, che tiene la rabbia, che un po' si è anche calmata, insomma, è passato qualche secolo, un po' si sarà calmato, insomma, cioè, poi, cioè, vabbè, un po' sempre che cappacco e tiro del culo, non è, no, però Marco, cioè, questa cosa Umberto te la potrà sicuramente confermare. Quando diventi padre, una delle prime cose che impari è a tenere a freno la rabbia quando tuo figlio fa dei casini inenarrabili, tipo quando ti lancia una freccia addosso, sì, tipo sì. Per caso specifico, se ce la fai, se ce la se fai, ce la... sì, ho tolto tutto. E va bene, allora diciamo le parolacce, no? Così che ci frega, va bene. No, invece, sì, figo, però, bravo, bella. Bella, perché poi, tra l'altro, ci sono stati dei giochi, no? Per esempio, come si chiama quello degli autori di Alan Wake, là? L'ultimo che è uscito, Control. Control. Bello. Che alla fine, oh bello, dopo due settimane sono scordati tutti praticamente. Cioè, vabbè, però hanno fatto male, perché al di là di, cioè, al di là che è divertente da giocare, è affascinante. Bello non lo so, però è affascinante. C'è un problema serio. Poi abbiamo detto tempo fa che probabilmente è una trama vagamente simile a, te lo ricordi, che era The Room? No, The Room, quello degli oggetti che uscivano fuori dalla stanza della The Room. Poi c'era una serie TV che si chiamava The Room, magazzino, no, non mi ricordo, vabbè, era uno spin-off di, non mi ricordo, che lo Squarehouse, ah, era forse, no, mi sa che era uno spin-off, no. L'altro telefilm con che cacchio era, vabbè, che questi tizi che facevano, ma non è uno spin-off. Esatto, sì, quello è uno spin-off, o ci hanno fatto uno spin-off, però c'era un era interessante. Ci ho pensato a quello mentre ci giocavo, e... 13. però scusa, Puccio, cioè oggettivamente, ma al di là del fatto che ti è piaciuto, è stato divertente e che c'ha anche degli spunti, io non lo metto in discussione, anche dal punto di vista artistico comunque hanno fatto un gran lavoro, però cioè sia Control che Quantum Break sono due giochi che dopo tre settimane si erano dimenticati tutti, cioè, hanno sparato alto. Quanto mi è piaciuto Quantum Break, a me mi sono divertito un sacco a guardare il telefilm e poi a giocare, mi sono divertito un sacco. No, c'era pure questa cosa trasmediatica, no, particolare. Allora, trasmediale si dice. Sì, no, io dico quello che cazzo mi pare, va bene. Warehouse era un crossover con Eureka, che era un altro Eureka, che tra l'altro non la trovo in nessun servizio di streaming, però era proprio bello. No, Eureka lo trovi nei torrent, lo dico apertamente. Sì, è molto probabile, però non lo volevo dire. No, vabbè. Quando lo trovi fai Eureka! Vabbè, infatti comunque la prima volta l'ho visto così, credo. Non so che fine abbia. E anche praticamente crossoverizzato con Alphas, di cui fecero solo una stagione, cioè una cosa. Cos'è Alphas? No, Alphas non ho mai sentito. È la versione, una versione dei poveracci dell'X-Men, dove ci sono queste persone che hanno dei poteri particolari, tipo il tizio che faceva, che poteva fare delle cose tipo restare in equilibrio e fai calcolare i rimbalzi a mente, quindi era perfetto nei lanci, c'era questo grande superpotere, diciamo stare, no, però era era una cosa che cercava di essere seria, ma vabbè, penso sia durata una stagione. No, perché Eureka proprio serio non era, eh. No, assolutamente tante no. qualità, ma Manco Warehouse è serissimo, sì. Però no, mi piaceva perché sembrava in realtà che quella era l'idea, come se lavorassero nel capannone dove portano la roba di Indiana Jones. Jones. Ma l'idea forse era quella. Sì, appunto, mi dava sta cosa qua, quindi mi piaceva, mi divertiva. Beh, comunque, anche The Room, che era quello che poi ha citato prima Marco, che è una serie che tra l'altro penso a malapena ha finito la prima stagione, perché poi l'hanno proprio chiuso in corso d'opera, il che era anche un peccato perché poi chiaramente lo si chiude frettolosamente come tutte queste opere qua, però almeno c'è un finale. Però l'idea era figa, cioè devo dire, era a me mi aveva trippato. È vero che era l'epoca di Lost, quindi c'erano tutti sti telefilm che c'erano tutti sto big mistero e poi dopo alla fine non sapevano come riagganciare le cose, però quello era figo, no? Allora vi ricordate Alcatraz, cioè, era un progetto dello stesso team di Lost. Beh, era Abrams, era sempre Abrams. Dico qualcosa per Ciccio. Sì, c'era anche Ciccio. Lui. Sì, ma quello è sempre Abrams, ma quella l'hanno chiusa subito pure. Peccato, però guarda, ti devo dire, io la prima stagione me la ricordo pure interessante. Poi non so esattamente che cazzo è successo. Beh, vabbè, Revolution, volevamo parlare di Revolution, cioè. No, non è proprio questo, è un altro forse. No. No, infatti, appunto dico. Vabbè, comunque. Di Firefly. Di Firefly. Allora, comunque, chi è che stava a fare il consiglio? Di Vai. Qualcuno parlava di Contro, tipo Puccio parlava di Contro. No, veramente l'ho tirato fuori io perché c'era Umberto che ha dato il suo gioco che era God of War. E io ho detto, vedi, però, God of War è bello che l'hai tirato fuori. E tra l'altro comunque oggi io me lo ricordo con più piacere di quanto poi alla fine giochi come Control che alla fine si sono dimenticati nell'arco de Zero, insomma, che poi in realtà se ci abbiamo detto che è tratto, che è molto simile a The Room, esatto, bravo. E quindi è un loop adesso. E quindi adesso Marco, tu qual è un gioco che hai giocato ultimamente che ti senti di consigliare? O ultimamente, anche non proprio ultimissimamente, insomma, quando te pare, insomma. Vedo nella mia ludoteca. Vabbè, allora vai intanto Carmine. No, allora praticamente ho due giochi. La te l'ha decisa, però. Che è Disco Elysium. Stavo guardando, l'ho aperto. Disco Elysium. Pure Disco Elysium, che però è effettivamente molto ostico perché è solo in inglese, però prima o poi uscirà in italiano. No, non credo proprio. Ma dai, che prima o poi uscirà. Purtroppo no. Anche se è vero che hanno tradotto Westland e stanno traducendo anche Baldur's Gate, quindi probabilmente potrebbe anche succedere. Sì, almeno il test. Sì, no, il testo chiaramente. Sì, no, anche perché è solo testo Disco Elysium praticamente. Cioè, Disco Elysium mi pare che sia stata il distributore nuovo ha preteso delle parti doppiate, una roba del genere. Vabbè, ma infatti la Final Cut. Sì, c'è una tipo edizione fantasmagorica. Sì, la Final Cut, sto vedendo ora. E poi Surviving the Aftermath, che è sempre della serie Surviving, cioè Surviving Mars, Surviving Aftermath. Praticamente devi gestire la tua colonia di sopravvissuti in un mondo dove può succedere di tutto. Molto carino, ve lo consiglio se vi piacciono i giochi di strategia in regime di post-apocalismo. Quindi valido, vi consiglio di provarli entrambi. E Disco Elysium però è in inglese, è molto testuale, quindi se non avete una conoscenza discreta sufficiente, potrebbe non essere sufficiente, quindi se avete una discreta conoscenza dell'inglese potete godervelo, se no sono un po' cazzi, quello ve lo dico subito. Bene, bene. Intanto in chat ci hanno raggiunto DJ Joker e Walter Sbano. Perché Walter penso che è stato ospite di DJ Joker in Revolve Radio, che è questa radio con cui abbiamo questa specie di gemellaggio e sicuramente amicizia, questo è senza dubbio. Quindi martedì alle 20:30 potremo ascoltare la replica di quello che si sono detti nella loro trasmissione, che ricordiamo si chiama In Cultura Generale, e sono curioso, insomma, di sapere quello che si sono detti, insomma, quindi ci fa piacere, sicuramente li ascolteremo. Ma tu, Marco, non eri quello che consigliavi anche Rust? Rust. Rust sempre le cuoci, ricordiamoci le nostre case fatte di legno di stecchini, esatto. Case fatte a pezzi, fatte a pezzi. Allora io ho costruito la casa, io, Shuren e Marco Gualdi se ne andavamo a dormire perché dicevo stava dentro la casetta nel carduccio, stava a posto, e se rivedevo domani ragazzi, sì. Se rivedevo domani tu ti ricollegavi, eri morto per terra senza la casa, sbranato da un orso. Quindi alla fine ho capito che in realtà c'erano due versioni di legno, c'era il legno base ma dovevi rinforzarlo, ma noi non avevamo capito. Vabbè, ma dai, ma una casa non si sgretola in una notte, cioè, ma che cazzo, cioè. Questo è quello che dici tu, si chiama rust quel mondo, cioè ruggine, si arrugginisce tutto, pure il legno tutto, si arrugginisce, pure il legno, esatto. Legno, certo, pure l'acqua, l'acqua si arrugginisce, no, vabbè. Comunque gioco voi pensate quanti, quando lo abbiamo giocato noi era un gioco di merda, i voi. Nostri personaggi per fare la casa con gli stecchi, no, immaginavo il quantitativo di ghiaccioli che saranno ciucciati i personaggi per avere abbastanza stecchini per fare la casa. Sì, ma poi vabbè. Comunque, Rust sembra che adesso sia diventato anche per un breve periodo di tempo un gioco giocatissimo su Steam, non so perché. No, beh, là funziona così, ogni tanto la gente comincia a fare i video sui giochi a cazzo, no? È tipo, vero, sì, sì. Cazzo, e tutti poi dopo ci vanno, quindi diventano trending e la gente si accomoda perché è diventato trending. Assolutamente, cioè, vero. Io sono rimasto molto male quando mia figlia di 5 anni è venuta e ha fatto: papà, mi installi Among Us. Che cazzo ne sai tu? E semplicemente pure i video per bambini avevano cominciato a mettere questa cosa. Ma quello è abbastanza poi. Insomma, diciamo così. Vabbè, comunque dai. Vabbè, quindi qual è il gioco che suggerisci, Buccio? In questo preciso momento storico, no, pigliatevi la beta di Baldur's Gate 3. No, vabbè, no, una cosa meno impegnativa. Poi già l'hai detto, Baldur's Gate. Narita Boy, giocatevi a Narita Boy che sta anche nel pass. Che Narita è Boy? Narita Boy è innanzitutto un bel gioco, nel senso da giocare è divertente. Se vi piace l'informatica, se masticate un po' di programmazione, vi farà impazzire perché c'è tantissimi micro riferimenti. Se vi piacciono gli anni 80, vi piacerà da morire, anche se in realtà il livello di citazionismo è alto. Basta, ma è abbastanza ben, no, è molto ben contestualizzato. Basta questi anni 80, basta. No, è un gioco che inizia a raccontarti una storia, tu ti fai un'idea tutta tua di come deve andare a finire, e invece no, vedetevelo, perché giocateci perché è divertente, è un bel passato. Un sacco di neon, c'è un sacco di neon. Sì, anche troppo. Certi momenti. La tricroma. Beh, diciamo che i neon sono gli anni 80, fondamentalmente. È il motivo perché un sacco di noi hanno gli occhiali. Quindi. Sì, dipende, perché c'è qualcuno che c'è nato con gli occhiali. Qualcuno per colpa di Postal Market, qualcuno per colpa della Postal Fenic. Market, hai sulla testa. Ah, ho capito qual è. Sì, vabbè. Vabbè, e io invece, ragazzi, ho detto, ultimamente non ho giocato un granché. Devo dire che Westland, come si dice? Come cazzo si pronuncia? Wasteland. Devo dire che è figo. È figo perché il gioco è così come ti aspetti, perché chiaramente se avete giocato il 2 sapete, insomma, è anche più esagerato, secondo me. Sono delle scene d'un tarantiniano incredibile, cioè tipo scontri finali, cose pazzesche, tipo c'è, cioè, a un certo punto che tu praticamente devi combattere contro dei pagliacci pazzi. E mentre che fai sta cosa c'è tutta una musica rock sotto che accompagna tutto il combattimento, e veramente sa di Tarantino sta cosa. E addirittura in un altro scontro, in un'altra situazione che non vi dico, perché poi c'è veramente una, diciamo, una reinterpretazione, un riarrangiamento di Alleluia, e quindi c'è, nel senso, c'è queste chicche un po' particolari. Poi il gioco è quello che è, cioè è un gioco difficile che ogni passo che fai pesti un merdone e muori avvelenato, insomma, nel senso, purtroppo, cioè, diciamo che queste abitudini, è un gioco spietato, esatto, sì, no? Queste abitudini di ops, c'era una mina, non se le levate, diciamo, avrebbero potuto forse un po'. Il gioco è sangue e merda come tutti gli altri, insomma, quindi alla fine vale la pena. Io invece vi suggerisco, proprio rimanendo in tema Wasteland e Fallout, un gioco che però adesso non lo vedo, l'ho disinstallato, ma poi lo devo ristallare, quindi non mi ricordo come cazzo si chiama, ma me lo ha regalato Francesco, Atom RPG. RPG, che è praticamente, diciamo, un Fallout programmato dai russi. Quindi praticamente quindi c'è questa società post nucleare, quindi post atomica come in Fallout, soltanto che loro sono rimasti al tempo dell'Unione Sovietica, quindi è fighi, come ambientazione è fighissima, ed è particolare. Il gioco è un po' grezzo, diciamo, dal punto di vista strettamente tecnico, però ecco, anche questo sono proprio le stesse identiche meccaniche dei vecchi Fallout, quindi con i combattimenti a turni e via dicendo. È un po' grezzo come gioco, insomma, un po' bisogna un po' capire, insomma, le cose da fare a un certo punto, perché non è che ti dà segnalazioni, ti indica dove stanno le cose o dove si realizza la quest, non capisci neanche se cioè tu a un certo punto devi riparare un motore, praticamente non c'hai le abilità per ripararle, però se tu ci clicchi prima o poi si ripara, insomma, diciamo è un po' grezzo, insomma, però vale la pena, insomma, se vi piacciono questo tipo di giochi, anche per spezzare magari anche, insomma, i giochi più normali, diciamo, più moderni, diciamo, un po' più action, diciamo così, sono interessanti, anche perché comunque la difficoltà è sempre assicurata con questa tipologia di giochi, perché comunque alla fine, al di là del discorso del gioco a turni, quindi dell'essere riflessivi, poi alla fine comunque te la devi studiare un po' la situazione, perché come abbiamo detto su Westland addirittura, cioè, a volte è quasi casuale, cioè nel senso, fai un'esplorazione dentro una casa, entri dentro una stanza e non ti accorgi, o ti accorgi e non ti accorgi, comunque scoppia tutto, oppure esplodono le cose de veleno e via dicendo, insomma, e quindi ogni volta devi star lì a bestemmiare, a fare le siringhe di adrenalina sul cuore da gente, se non ce l'hai muoiono e vaffanculo, insomma. Bene, questo è un po' i nostri suggerimenti. Abbiamo voluto parlare questa sera un po' di videogiochi, così un po' anche a cazzo di cane, anche un po' estemporaneamente, non avevamo niente di veramente organizzato, però ci faceva piacere, insomma, anche riappicciare le lampadine qua su Ludico Forum. E prima di salutare tutti quanti, Umberto, parliamo un po' del gioco, come sta andando, insomma, parlacene un attimo. Come sta andando? In questo momento è, come vabbè vi dissi l'altra volta, insomma, finito il lancio, finiti gli sconti, calano un po' le cose, bisogna aspettare i prossimi sconti disponibili per vedere che cosa succede. Nel frattempo stiamo lavorando per uscire su Switch e mobile, quindi questo è il prossimo step, anche se era una feature del Kickstarter che non abbiamo raggiunto, ma vogliamo farlo lo stesso, quindi abbiamo lavorato di contatti, stiamo collaborando con N3, che è un'azienda lombarda, per fare questa conversione e eventualmente uscire per le altre macchine. Tra l'altro avevamo anche idea, se questa conversione che stiamo cercando di automatizzare il più possibile va in porto, avevamo anche idea di poterci proporre a qualcuno, ad esempio, che sviluppa in AGS, anche come publisher eventuali, un po' come fa Wadget Eye, non so se avete presente. Però col fatto che noi col tool che sta sviluppando Andrea potremmo convertire abbastanza facilmente i giochi in Unity e quindi esportarli dopo per le altre macchine. Quindi c'era anche quest'idea, insomma. Cioè, quindi tutti cioè nel senso tu ti proponi per gli altri soggetti che hanno sviluppato in AGS di fare la conversione, il porting possibile su Unity. Questo è Unity, okay. E partecipare da publisher in quel caso, quindi prenderti una parte delle revenue, il resto vanno a loro, e tu di lavoro ci metti, vabbè, naturalmente la, tra virgolette, la pubblicità, nel senso, per quel che si può, però fa in modo che possa, siccome è chiuso AGS, cioè AGS tutt'al più con grande effort, io l'ho fatto, ma con grande sforzo riesci a portarlo su iOS, cioè io l'ho fatto girare il mio gioco su iOS, ma è una rottura di cazzo, ragazzi, di dimensioni bibliche, voi non avete idea, mentre in quel modo là tu lo porti su Unity, dove virtualmente lo fai uscire, diventa universale, certo, dove voglio loro, virtualmente, naturalmente, perché Marco, ma se tipo ti proponessero di inserirlo in un pass partendo da quello Microsoft o Epic, glielo darei subito. Ma magari okay. Ma magari dici, oh, signor, tipo col sangue, okay. Nel senso che a me quel che, allora ragazzi, quello che stiamo facendo, cioè, dato che non è certo tra virgolette con le avventure grafiche che puoi fare il botto e quindi diventi milionario, quello che stiamo cercando di fare è di consolidarci tra virgolette come gruppo, come azienda, come sviluppatore, quindi in più posti sei, soldi a parte, più hai visibilità, meglio è, cioè su questo non c'è alcun dubbio, al di là del fatto che penso che sia anche remunerativo in un certo qual modo, però arriverebbe un sacco di gente, sai quanta gente, magari non gli piace, però quantomeno lo prova, no? Sa chi sei, la prossima volta che vede scritto Psychodev, fa, oh, quelli che facevano schifo, oppure ah, non era male, fammi vedere, cioè, capito, è sicuramente, cioè, ci potrebbe marcia. Anche essere chi dice, ah, quelli che facevano schifo, fammi vedere. Nel senso, nel senso che gli fatti che già, oh, questi facevano schifo, compriamo i giochi. Magari, magari ci facciamo i video su YouTube, capito? Capito, i video su YouTube dei giochi di merda. Oppure ci facciamo i cosplay con i personaggi. No, no, quello no, quello, no, quello non va bene. Non può decidere. Cioè, ma di Cthulhu proprio, cioè, nel senso. Alto 46 milioni di metri. E quindi io continuo a essere comunque contento di come è uscito, per tutti i problemi che abbiamo avuto sono abbastanza soddisfatto. Poi insomma c'è chi si lamenta di questo, chi si lamenta di quello, ma non si può accontentare tutti, quindi no. A un certo punto frega cazzi, ecco, diciamocelo. Noi continuiamo a chiederti l'inserimento di John Madness da poi con calma in grande, c'hai tempo. Il grande John Madness, lo mettiamo nel prossimo, sicuro. Madness è necessario. Se ci sarà un prossimo, vediamo. Magari. Magari ci facciamo un'avventura testuale. Ci facciamo. No, comunque, dai, scherzi a parte, citiamolo il gioco Chronicles of Innsmouth, giusto? Mountains of Madness. Pensate, quasi ci sono quasi riuscito sta botta. Quindi, bravo, sì. Grande, grande. Ma mi ci sono allenato la notte, io mi sveglio e faccio Chronicles. Comunque, posso dire anche avventura punte e clicca, di stampo molto classico, sì. Si basa sulla storia, sull'atmosfera, non ci sono trovate particolarmente originali, ma non sono neanche state cercate, insomma, e quelle che sono state cercate hai pensato bene di non mettercele, perché dice, vabbè, ma quanta roba ci sto a mettere dentro, se no me la copiano. Comunque perché poi c'è sta cosa, no, ma non aggiunge niente di nuovo, ma che cazzo lo fa un'avventura grafica, e se ti metto la parte arcade dici, ma che la parte arcade è un'avventura grafica, che devo fare? Sì, si potrebbe creare un sistema come quelli lì nuovi, un po' intelligenti così, ma a quel punto non fai il gioco QGS e non la fai di stampo classico. Esatto. No, ma poi diciamoci, Umberto, è una cosa che penso che oramai alla nostra età, o comunque vabbè, alla mia età, ma anche te, insomma, oramai cominci a essere una persona più che adulta con una certa esperienza, sai perfettamente che anche se tu dovessi fare il gioco inappuntabile, ci sarà sempre qualcosa che non va, no? Nel senso, ci sarà sempre qualcuno che romperà i coglioni, ci sarà sempre qualcuno che si lamenterà presuntuosamente, o ci sarà comunque la critica che alla fine comunque fa parte del gioco, insomma. Comunque, beh, ragazzi, romper i coglioni a Naughty Dog, cioè, vorrei... A me, tanto per ricordare, comunque a me non ci siamo proprio, non me lo dice nessuno, okay? Ecco, ti metto le facce. Ecco. Ecco, quindi meno male che l'hai scritto da dietro la tastiera. Vabbè, noi ogni volta su queste cose ci ridiamo sopra, però io capisco, cioè, nel senso, comunque capisco. Vabbè, dai ragazzi, io invece la prossima volta che torniamo a parlare a cazzarella di videogiochi vorrei parlare di un gioco, e così lo annuncio, così vorrei parlare di Beholder, perché perché è un gioco del cazzo. Non fraintendete, è un gioco del cazzo nel senso che fa schifo, è un gioco del cazzo, o è un cazzo di gioco, cioè è un gioco del cazzo perché ti mette di fronte, e poi ne parliamo, perché sì, insomma, bello, eh. È ignorante, sembra anche perché l'ho giocato su una macchina che più particolare non potevi giocarlo. Io l'ho giocato su PC Engine CD. Figurati. Aspettate, stiamo parlando di Eye of Beholder o no? Allora non stiamo parlando del 2016. No, io sto parlando di Beholder, cioè il quello gioco dove guardi le telecamere. Bravo. Esatto, dove tu fai il... E allora non so di cosa tu parli. Allora scusami. No, però bello. ti suggerisco di giocarlo quando ti capi. A parte il fatto che è un gioco indie doppiato in italiano, ne vogliamo parlare questa cosa? Cioè il doppiaggio in italiano. Sorti, ne sappiamo parlare. Giovani sordi, se ne vogliamo parlare. Non è il discorso economico in sé, mi fa ridere l'idea che questi ci hanno avuto o loro o chi l'ha proposto, io non lo so, cioè, ma questi come cazzo, cioè io quando ho visto il doppiaggio in italiano ho detto, ma perché, cioè, nel senso, in un contesto come questo. Comunque è un gioco bello, ti suggerisco Umberto di comprarlo, di giocarlo, di, insomma, perché ecco, lo dico proprio al volo, un secondo: tu sei il portiere, anzi il custode, diciamo, di un condominio tra virgolette sovietico, ok? Cioè, se vogliamo proprio, è un po', cioè, diciamo, è l'estensione più tecnica, diciamo, di Paper Please, se proprio vogliamo. E tu praticamente nel gestire e controllare i condomini, le situazioni, ovviamente tu c'hai il compito di capire se ci sono attività sovversive, attività illegali, e quindi in realtà ti sei costretto ad interpretare un pezzo di merda, cioè fondamentalmente Grande Fratello. Ed è figo come gioco, perché è un gioco del cazzo, cioè proprio è un gioco che ti mette lì, cioè tu dici, ma e non puoi, cioè nel senso, se tu segui la tua morale, il gioco non c'è, perché perdi fondamentalmente. E niente, ne voglio in realtà, cioè, ce n'è un altro allora che ti potrebbe piacere, che è la serie di Orwell, che più o meno si basa sullo stesso principio, dove tu interpreti quello che fa la raccolta dati su delle persone e poi devi incrociare questi dati e decidere se le vuoi denunciare alle autorità, se è meglio di no, se ritieni che le informazioni che hai non siano conclusive o siano dubbie. Devi valutare poi l'impatto di quello che fai, perché magari queste persone hanno dei figli, dei parenti che dipendono da loro, cioè così, è un po' angosciante. Se tu dici un paio di cose, c'è anche un seguito di Orwell, sì, Ignorance. No, di Beholder. Sì, c'è Beholder 2, sì. E la cosa, sai, che il primo è doppiato in 13 lingue, non è il problema che è doppiato in italiano, cioè è doppiato in 13 lingue. Sì, diciamo che il doppiaggio non, cioè, non c'è sto doppio, cioè, non è Life is Strange, diciamo così, cioè, nel senso comunque il doppiaggio è molto relativo, però ecco, sto fatto che questi hanno scelto di fare sta cosa è abbastanza curiosa, diciamo, tutto sommato. Tutte tranne Turco ci sono solo i sottotitoli. Però tutte le altre, vedi, coreano, vabbè, tedesco, portoghese, spagnolo, polacco, giapponese, cinese tradizionale, italiano, cinese semplificato, cioè c'hanno tutto, russo. Questa è una bella, hanno speso un sacco di soldi, anche se non ci sono molte linee, hanno speso un sacco di soldi. Beh, hanno speso un sacco di soldi perché è la quantità di doppiaggio che è tanta, sì, cioè nel senso... Ma poi ce ne sta anche un altro, ne stanno uscendo diversi dei giochi su questa impronta, che diciamo va per Plissa un po' aperto questo tipo di discorso, che però me lo devo andare a cercare perché non mi ricordo del nome, ma è la storia di sto tizio che viene praticamente arrestato perché voleva scappare dalla sua cittadina, sempre sotto dittatura pseudo-sovietica, diciamo così, e viene reintegrato all'interno della società e gli viene detto che praticamente ogni giorno lui subirà un controllo da parte delle autorità per vedere se sta diventando un ottimo cittadino, no? E nel frattempo lui deve costruirsi, insomma, le sue attrezzature, deve costruirci uno scantinato sotto casa e praticamente costruirsi le attrezzature per poter scappare via, insomma, quindi alla fine il meccanismo è sempre quello. Però quando ti vengono a fare i controlli, se, che ne so, ti hai perso un bicchiere, se non trovano le cose fuori posto, se vedono un pezzo di metallo insomma, che non ci dovrebbe stare perché tu te sei scordato di metterlo a posto, ti fanno delle contravvenzioni fino a che ovviamente poi non te ributtano in galera, sai? Quindi ce ne stanno diversi dei giochi così, però mentre che questo gioco di questo tizio qui è comunque lui artefice di se stesso, cioè è lui che decide di fare o non fare, tu devi trovare la strategia migliore per poterla fare, ma Beholder è veramente cattivo, cioè, come gioco, perché alla fine moralmente devi fare comunque delle scelte, al di là che comunque devi tenere una condotta, insomma, perché chiaramente la devi tenere. Va provato, però scusatemi una cosa, questo è un gioco che ha venduto, sì, cioè sì. Vedo owners da 500.000 a 1.000.000. Sì, sì, sì, sì, questa. Vabbè, è stato anche in omaggio su Epic a un certo punto. Faccio pure il doppiaggio in tutte le lingue, se vengo tranquilli. Vabbè, io guarda, quando proprio personalmente, però. Ma io pure. Cioè, io mi sono sempre offerto, Umberto, se ti serve una voce, io, però certo, cioè, ti devi accontentare dell'accento, insomma, è quello che è, però non si può fare, si può fare, dice, vabbè, dobbiamo fare un gioco comico, facciamo un gioco comico e ci mettiamo tutti gli accenti che abbiamo, infatti l'hanno fatto con Sam & Max e non lo potevamo fare noi, scusa, che cazzo. Come no, va bene, io ringrazio e saluto Marco Gualdi. Grazie a voi e ci vediamo alla prossima puntata, che sarà perfettamente, è proprio quella lì. E ringrazio e saluto Umberto Parisi. Grazie ragazzi e alla prossima. Seguitelo sui Beceri Videoludici, sia come podcast che come canale YouTube, ma in particolare come canale Twitch, perché Umberto ultimamente spinge una cifra con le live e quindi insomma fate compagnia a lui. Spese un sacco di soldi di luci, fa. Luci, cose, è vero. È del cazzo, venite. Maledetti stronzi, venite e fate l'abbonamento anche un po'. Ringrazio e saluto Carmine Puccio Console. Ciao a tutti. Che dopo quanti anni è che si conosciamo? 5, 6 anni? 6 anni. 6 anni. Finalmente ci siamo parlato di console, incredibile. Guarda, ci ho messo un sacco di anni. Tu ci scherzi. Ti spiegherai la prossima volta, non ti preoccupare. No, ultimamente mi viene. Non ti preoccupare, che in questi giorni ci ho avuto una sequenza di telefonate con. TAC, cioè centri di assistenza di software e hardware dall'India, quindi diciamo console, mi hanno chiamato tutti. Ah, ok. Console? Mi sono sentito a casa. Dall'India. Can I speak with Mr. Console? Yes. Che poi tu, ma quando sarai sempre Puccio Carmine, sì, no, Carmine Puccio. console, esatto. No, ma io lo dico sempre, quando andai in Play Press per diventare collaboratore su PSM, erano tutti convinti che fosse console e fosse un soprannome. Gli ho dovuto dare la carta d'identità a Carlo Chericoni per fargli capire che mi chiamavo veramente così. Ah, oh, raga, guarda, sto cretino si è fatto mettere pure il nome di console sulla carta d'identità. Comunque, Buccio, a te quando ti telefono all'India ogni volta, ogni giorno è uno diverso, no? Perché l'altro, quello sì, giorno prima non c'è più. Tranne un evento in cui mi ha richiamato per tre volte lo stesso tecnico perché stava seguendo un problema molto serio. No, ma io volevo fare una battuta becera sul fatto che sul Covid. In realtà è pure... sì, ma infatti guarda. In realtà era pure brutta come cosa, però. No, battuta becera a parte, sai che comunque agli ultimi gli chiediamo sempre se stanno bene, tutto a posto. No, in realtà pare che fuori dalle grandi città la situazione sia un po' più serena, però diciamo l'India è un casino a prescindere, ragazzi. Il Covid ha solo accentuato un problema che è oggettivo lì, insomma. Quindi comunque, vabbè, sti cazzi, mi dispiace per loro, no. Però vabbè, noi che possiamo parlarmo pure dell'India su Ludico Forum, insomma, ragazzi, quindi non riusciremo più. Ringrazio a tutti e ci vediamo, insomma, presto con un nuovo episodio, mentre vi ricordo che venerdì prossimo invece sarà una puntata di archeologia videoludica dedicata alla seconda parte della storia di Ultima, quindi Buccio di Ette pronto perché si ritorna l'ultima parte di Ultima, hai detto proprio bene. Ciao a tutti, ciao. Grazie per averci seguito, per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.